tutti, ma comunque mi presento, sono Danilo Liglia, per chi non mi conosce, cittadino comasco, che ha avuto l'idea di mettere in circolazione un breve documento che probabilmente avete letto, che comunque sarà anche la traccia del ragionamento di questa sera, no? Diciamo, che poi era stato, per essere sincero, era già stato anche discusso, non in questi termini, ma approfondito con degli amici e amiche che sono qui presenti, no? Che poi dopo penso che interverranno anche loro. E perché? Perché c'è stata quella bellissima vittoria a livello amministrativo che ci ha fatto, che ha rinvigorito tutti. Successivamente poi c'è stata la vittoria sui referendum, che ha creato quello che tutti, no, tutti diciamo, questo nuovo vento, no, che ci ha preso anche un po' alla sprovvista. Troppo spesso, io guardo a me, è quella della mia generazione, spesso ci facciamo un po' il ritrovare, no, con qualcosa che ci supera, no? e mi fa piacere, no? Cioè, in genere noi eravamo abbastanza, in questa fase, abbastanza frustrati, no, dalla politica, almeno di 20 anni, da 20 anni a questa parte. E quello che è avvenuto, no, sta cambiando notevolmente e velocemente tutta l'Italia, no? E questo ci fa molto piacere, perché probabilmente noi abbiamo sottovalutato quelle forze che ci sono e che sono sempre presenti e che hanno saputo reagire. Dopo ne parleremo anche di chi sono queste forze. Quindi, dopo l'invito, un po' forse io ho detto presuntuosamente, abbiamo voluto indire questa riunione, un po' velocemente anche, ma non per motivi diversi, perché ci sta avvicinando l'estate, no? Abbiamo valutato anche i tempi, dire prima che poi dopo, stasera vi dico che almeno una decina, quindicina di persone mi hanno scritto che non possono essere presenti, salvo che perché sono andati in vacanza, beati loro, no? Diciamo così. Però diciamo, avevamo paura che andando un po' in là nel tempo, poi dopo arriva settembre, no? Ci sono delle iniziative importanti, per cui si rischiava di, le elezioni prossime sono a aprile, no? Per cui si rischiava di andare di là nel tempo, quindi abbiamo detto vabbè, acceleriamo un attimo i tempi, no? Perché? Perché noi vorremmo portare questa proposta, che poi ho detto è partita da questo documentino, da queste riflessioni, ma mi auguro che venga, che vada oltre, che sappia andare da oltre e creare qualche cosa di diverso, no? E innanzitutto era una proposta che, oltre al documento, c'era una proposta concreta di chiedere al PD di fare le primarie, no? Con quindi una sottoscrizione. Io ho lì una trentina, quarantina di nomi tra quelli che mi avevano mandato la loro adesione, poi alcuni non erano stati molto espliciti se anche firmare questo appello. Ecco, questo fatto di chiedere al PD, vorrei chiarirlo subito, il PD è il partito maggioritario a Como, no? Diciamo, sinceramente c'erano anche delle perplessità sul fatto che volesse intraprendere, perché c'è sempre stato un grosso problema all'interno di questo partito rispetto alle primarie, no? E alla partecipazione in genere, che comunque è stata superata, secondo me, in buona parte anche nelle ultime elezioni. Per cui volevamo fare una pressione che arrivasse dalla cosiddetta società civile, no? Cioè da tutta una serie di persone che ringrazio stasera che è presente, che è anche diversificata, che ha delle collocazioni anche politiche diverse, no? Ma io volevo proprio rivolgermi a loro, no? Alle persone che vivono la politica, vivono l'associazionismo, vivono tutta questa serie di proprio impegno, no? Trasversale, affinché non solo nel PD, perché poi il mio discorso era, ed era venuto fuori anche nel dibattito che abbiamo fatto con il gruppo che abbiamo di giù la giunta, no? per dire con Rossana, con Luca e altri, noi puntiamo a una primaria di coalizione, tanto per intenderci, non a una primaria all'interno del PD, no? Quindi questo invito, no? Per far sì che la società civile prendesse coscienza anche in prima persona, che ognuno di noi, no, all'interno delle proprie associazioni, dei propri movimenti, dei propri partiti, no, premesse per ottenere, io parlo delle primarie, attenzione, adesso lo ripeteremo anche tante volte, non sono, come ho sentito dire, un totem, qualche cosa che salvifica il tutto, eh. È uno strumento in questo momento che sembra vincente laddove si fanno coinvolgendo la gente, chiamando alla partecipazione alle persone, responsabilizzandole, dando anche un senso di vera partecipazione, no? È uno strumento che si è rivelato vincente, anche in situazioni estremamente difficili, estremamente pesanti, no? Accanto alle primarie c'è anche un altro discorso, però, secondo me, no, che va di pari passo, no? La formazione poi di un contenuto, no? Perché io non credo personalmente all'uomo forte che riesce a risolvere i problemi, no? Per me l'uomo forte esce da una cittadinanza attiva forte, no? Da un impegno forte delle persone che vivono il proprio territorio e che sanno anche quindi esprimere e scegliere un sindaco, un candidato sindaco e candidato sindaco, perché è di sua competenza, degli assessori e di tutta una serie di persone che poi andranno a governare il territorio. Il territorio non è soltanto governato all'interno del comune, del municipio, ma anche in tante altre enti, associazioni, eccetera. Como, e dopo lo riprenderò alla fine, in questi ultimi anni ha dato il peggio di sé. Ci sono qui anche dei rappresentanti, mi fa piacere, degli attuali consiglieri comunali che hanno vissuto e che vivono storie tipo la Cadindustria, tipo la Ticosa, tipo altre cose che effettivamente, no, hanno portato a Como ad essere additata, no, a parte il muro, che quello non lo nominiamo più, in tutta Italia e in grande parte del mondo. Quindi primarie che significa? Quindi un discorso di partecipazione, primarie che significa anche però, secondo me, e questa è una mia opinione, dare un indirizzo anche di processi partecipativi nell'amministrazione futura. No? Io non voglio per scelta andare a vedere quello che c'è stato nel passato. Errori ce ne sono stati tantissimi, no, da parte di tutti noi, no, nella gestione, diciamo, nella gestione della formazione delle liste, delle coalizioni, eccetera. Ci sono stati dei momenti in cui sembrava che ci fossero delle condizioni per, non dico di riuscire a vincere facilmente, ma per poter vincere, ma troppo spesso quelle divisioni che ci sono nelle zone di provincia, nelle province, un po' in tutte le cose, hanno condizionato anche una costruzione di una proposta. Perché io credo fermamente che la città deve anche percepire che chi si propone è un soggetto in grado di poterla governare, di poter andare a risolvere i propri problemi, no? Di poter risolvere. Poi sono anche convinto che in una città come la nostra ci sono dei poteri forti, perché i poteri sono diversificati, tendono a scegliere e a far eleggere determinate persone più altre. Però sostanzialmente io ho fatto anche un pochettino l'amministratore per qualche anno come in un piccolo comune, però dopo tanti anni avevo anche acquisito che la necessità che il cittadino deve sapere che le persone che si propongono per governare, no, lo possono fare, perché non so, sono gente che lavorano su un progetto, gente che lavorano nell'interesse della città, no? E quindi io credo che oggi, no, lo strumento primarie, che significa, come ho detto prima, la scelta partecipata, e poi collegando uno strumento legato io l'ho chiamato cantiere, uno lo può chiamare come vuole, lavoratore, cantiere, fabbrica, perché altrimenti non, ognuno, sai, bisogna stare attenti tante volte a dire la parola, perché altrimenti uno dice allora sei da questa parte piuttosto che dall'altra, ma un contenitore, no? Dove comunque sia i candidati, sia le che andranno o che vorranno diventarlo, no? Facciano formazione, no? L'abbiamo parlato anche l'altra volta, no? Cioè nel senso che si formino per poter andare ad assolvere quello che devono fare, si crei assieme, no? Il programma, che non è la lista di tutte le cose da fare, eccetera, ma un'analisi seria delle esigenze che ci sono nella città e che quindi poi dopo devono diventare anche la proposta, no, diciamo, all'interno del perché è inutile fare giù dei programmi che sono un libro, no, di sogni e di cose che poi non si realizzeranno mai, ma un programma, no, che innanzitutto studi veramente i problemi della città, no? E poi scegliere e fare poi delle proposte all'interno della campagna elettorale, no? Diciamo così. Nelle discussioni fatte, no? Io faccio riferimento al documento che penso abbiate letto, no? Si parla appunto delle scelte e io spesso ho avuto questi... mi sono sentito richiedere immediatamente, no? La domanda, no? Ma chi è il candidato? Se hai qualcuno da indicare, no? Dimmelo, no? Cerchiamo un soggetto forte che sappia, qualcun altro mi ha scritto anche su Facebook, qualcuno che sappia andare a prendere voti dall'altra parte, cioè questa richiesta spasmodica subito di un nome, no? Io non credo che questa sera ci siano nomi oggi in questo momento da fare. Io potrei fare, l'ho detto, volevo che portarne 10 di persone che mi potrebbero essere simpatiche oppure utili per essere candidate sindaco, ma non è questo, no? Io credo che questo nome debba arrivare dopo una fase, no, di lavoro comune, no, di confronto comune, no? C'è chi vuole il tecnico, c'è chi vuole il candidato donna. Io credo che queste sono cose anche importanti, no, da valutare, perché quando devi andare a fare una proposta devi tenere conto di tutta una serie di... Ma credo che semplicemente, no, questo soggetto debba essere espresso da una base forte, da una base che si ritrovi, no, attorno a un progetto, no, che è questo che deve arrivare all'interno delle che poi arriverà all'interno delle primarie, no? Oppure giustamente più candidati che si confrontino, perché questa è la vera sfida, no, che si deve fare. Più candidati che escono anche da una discussione aperta tra di noi, no, dico, e soprattutto allargata, ma che sappia poi, no, chi vince, no, quello che è fondamentale, chi vince, poi fa squadra e gli altri fanno squadra con lui, no? Questo deve essere il patto, no, che deve in questo momento, no, creare delle nuove condizioni. L'avversario, tra virgolette, è il soggetto che giustamente è in competizione con te, no? Ma non è il tuo nemico, no? È un tuo compagno di strada che oggi tu puoi anche eventualmente, se l'altra persona vince e tu non vinci, benissimo, no? Però lo rispetti e lo aiuti e gli porti avanti le cose. Un concetto che nella gestione democratica del municipio non ci si può rinchiudere nel palazzo, no? Ma occorre gestire il bene comune utilizzando i metodi cosiddetti della democrazia partecipativa, e su questo per me è un fatto fondamentale che parte da questa, per questo che io punto molto su questo discorso delle primarie. La democrazia partecipativa non è un qualcosa che è velleitaria, qualcosa che non è alla portata delle città, non è vero, perché ci sono esperienze importanti in tutto il mondo, da città da 700.000 abitanti fino ai paesi da 10 o 15.000 abitanti, dove processi di democrazia partecipativa, che partono dai cosiddetti bilanci partecipativi, ma anche guardate il PCT che stanno facendo adesso a Como, no? Con delle scelte che saranno quelle future dei prossimi anni, no? Vengono fatte di fatto all'interno tutte di io non so se qualcuno sa qualche cosa del PCT qui a Como, no? Niente, non si sa. Anche quando ci sono forme di pseudo partecipazione, no? Sono fatte perché la normativa prevede determinati inviti a determinati soggetti, punto e basta, no? Abbiamo visto noi a Como il peggiore esempio di non partecipazione, che è stata l'Agenda 21, no? Come che era un processo di democrazia partecipativa che era nata anni fa all'interno delle istituzioni internazionali, ma che dove è stata utilizzata hanno portato dei risultati eccezionali. Da noi hanno fatto 60 o 70 proposte, no? Probabilmente neanche una è stata portata avanti, o pochissime, adesso non so se qualcuno è presente. Sì, basta. Ecco, allora, niente, allora giustamente, perché io purtroppo. Allora, ultima cosa, io credo che primarie per me vuol dire fondamentalmente anche creare una rete. Io per rete intendo uno scambio, una rete tra soggetti, partiti, associazioni, gruppi di cittadini, rete inteso come autonomia delle persone di tutti questi gruppi, ma anche relazione, scambio, condivisione del sapere e del potere. Sia anche quando siamo all'opposizione, si può governare anche senza essere il potere in prima persona. Occorre condividere la gestione del potere e delle decisioni. Il municipio come obiettivo finale deve essere questo. Tralascio lo scenario a Como che verrà fuori da qualcun altro. Proposte per quanto mi riguarda, no? Proposte sono quelle. Innanzitutto io qui ho l'appello al PD, che dopo volevo fare a tutti, no? Di fare le primarie, no? Di scegliere questo percorso con questo metodo che più o meno poi dopo verrà fuori all'interno. Io vorrei invitare le persone, la società civile presente adesso, ma anche quelle che pensiamo che questa sera non c'è, che possiamo contattare, di contattarla, di lavorare e assieme su questa fabbrica e luogo comune di discussione del programma, che può essere utile comunque, anche se poi dopo non viene utilizzato da un candidato o dall'altro, ma iniziare a lavorare con un gruppo di lavoro e proporre un discorso sulla formazione. La formazione è quindi una scuola dove poi le persone che dovranno andare a governare possono partecipare, no? Che credo che sia una cosa molto importante. All'interno dei gruppi, no? Trovare elaborare delle proposte, no? E farle circolare, no? Ma a disposizione anche di tutti coloro che nell'arco della coalizione del centro-sinistra ne hanno bisogno. Ecco, questo era la mia. Volevo dire giustamente le altre cose, ma. No, io dunque mi assumo il compito di fare il moderatore, quindi visto che siamo circa 40 persone e si tratta di una riunione del tutto informale, non precostituita, in cui ci si scambia per la prima volta delle idee, delle opinioni, io mi assumo questo compito, diciamo così, di consentire a tutti di esprimere il proprio parere, quindi vi invito ad essere molto sintetici, avete 3-4 minuti per ciascuno. A me piacerebbe che tutte le persone presenti avessero l'opportunità di esprimere il loro pensiero. Siamo tanti, la notte è lunga, però dobbiamo essere al tempo stesso sintetici. Quindi alziamo la mano, chi vuole cominciare a intervenire? Io posso dire l'ultima parola? Prego. Mi sono dimenticato, l'ultimissima, scusate. In circolazione io auspico, no? E ho auspicato che questa è un'iniziativa, se ce ne sono delle altre che mi hanno detto che ci sono già in atto, mi ha parlato Fragolino che aveva scritto che non poteva essere presente perché via, se non sbaglio, così, che stanno facendo, stanno proponendo anche loro all'interno di una certa area, so anche altri, so che anche Paco ha sta portando avanti una ottima iniziativa di verifica, no, su questo tema, che ne aveva parlato 2-3 settimane fa, quando c'era stata la festa delle 18 primavere di Paco, no? Ecco, queste iniziative secondo me non sono nessuna in contrasto con l'altra, no? Dico, con questo, dal mio punto di vista, no? Anzi, vanno tutte nella direzione di raggiungere quella effettiva forma di democraticità per cui non siamo qui stasera a discutere. Scusate. Bene, le danze si aprono, chi vuole intervenire? A freddo dico due cose. Proprio. Prego. La prima, piacerissimo. Si può venire avanti. Bruno, no, però resto qua. Sì, no, devi alzarti, però se no temo che non... Per la riunione informale. Sì, sì, sì. Anzi, sì. Apprezzo il fatto che Danilo si sia seduto al di qua, cioè che dà una, come dire, un tono più familiare, più... No, dicevo, concordo con questa felicissima scelta anche dei tempi, perché poi dopo l'estate sarebbe stato più problematico. Penso che un campo con gli eventi politici, amministrativi, referendum degli ultimi mesi su questo tema, le eventuali ipotetiche contrapposizioni siano di fatto in qualche misura venute meno. Faccio fatica a ipotizzare una forza politica, un gruppo, un movimento, un cittadino che in questo momento abbia nei confronti delle primarie pregiudizi o ostilità. Credo che assolutamente, mi pare che ormai si siano consolidate nella coscienza, abbiano dato prova di sé positiva, trattandosi di primarie di coalizione, come mi pare in campo sia il tema, mi pare che sia questo, insomma, un campo in questo momento è il tema delle primarie di coalizione, hanno dato buona prova di sé, quindi io ho una, come dire, manifesto una quota di ottimismo sul percorso, perché non vedo allo stato attuale ipotesi di contrapposizione o tipo di difficoltà, sì, perché poi anche le primarie, anche se sono di coalizione, vanno, voi sapete, organizzate bene, regolamentate, dosate, costruite, ci deve essere un confronto molto schietto su come, eccetera, eccetera. Però dico, non vedo in questo momento ipotesi di difficoltà particolari o di contrapposizione. Quindi questa è la prima considerazione, banale, perché è l'uomo di Colombo, però mi pare che solo qualche mese fa, non credo che il clima rispetto a questa proposta sarebbe stato lo stesso. Ci sono successi dei fatti in Italia, si è rimesso in movimento un circuito democratico che si era un po' appannato, e oggi mi pare che alcune conquiste siano consolidate, che questo percorso possa partire col piede giusto. E sono evidentemente, altra ovvietà, sono uno strumento formidabile di recupero di militanza e di passione, sono uno strumento, una leva importantissima per rimettere in circuito tutta una serie di appunto di forze, di quote di militanza che viceversa normalmente hanno a, come dire, una volta, come dire, dopo la scadenza elettorale c'è una sorta di letargo, per cui abbiamo spessissimo constatato che all'indomani delle campagne elettorali, come dire, la militanza si rinsecchisce, va in letargo, e questo produce quello scollamento che Danilo, su cui Danilo da molti anni insiste, per cui la partecipazione, per una volta conquistati gli assetti amministrativi, di potere, eccetera, eccetera, la partecipazione, ahimè, se non la si sa mantenere viva, è un fuocherello che tende. Le primarie, a mio avviso, mettono in circuito un potenziale enorme da questo punto di vista, perché, come dire, rispetto al semplice gesto di eleggere, quindi il famoso vado in cabina e do il mio contributo alla democrazia, le primarie aggiungono molto di più. Fanno del cittadino elettore un cittadino responsabile di scelte. Quindi è questo il meccanismo virtuoso che innescano, è formidabile, perché poi il cittadino che opera delle scelte si sente responsabilizzato e vincolato alle scelte che ha fatto per l'intero mandato, possibilmente con una funzione anche di critica e di controllo. Quindi le primarie sono veramente un circuito virtuoso. Ho già superato i limiti. Ecco, allora, primo passaggio, poi ne faremo altri. No, scusate. Io sono cattivissimo stasera. Hai fatto bene, niente. Scusatela. Faccio questo compito. Scusate la scontatezza delle mie argomentazioni. Mi ritiro. C'è scritto Secchi, Eugenio? Sì. No, io sono Eugenio Secchi, sono di Sinistra Ecologia e Libertà. Allora, come diceva prima Danilo, cioè anche noi ci stiamo muovendo in quell'ottica, perché è opportuno che rispetto alle primarie, adesso non sto a sottolineare tutto il discorso di importanza, eccetera, eccetera, che ormai penso sia un ragionamento che è consolidato all'interno della cittadinanza e quelli che sono i nostri potenziali elettori. Come dicevo, anche noi ci stiamo muovendo perché si arrivi anche a Como a mettere in campo questo strumento delle primarie, con un concetto molto chiaro secondo noi, cioè che le primarie non devono avere una primogenitura, nel senso che le primarie devono nascere come un momento dove ci si trova, dove tutti hanno pari diritti e pari dignità, e come tale nel momento in cui verranno fatte e si stabiliranno le regole, tutti hanno la possibilità di partecipare e di dire la sua. Questa è importante, perché non vorremmo che poi passi l'idea che forse le primarie sono state concesse o siano state permesse. Cioè il problema è che le primarie della coalizione centrosinistra devono diventare uno strumento di tutti. Questa è la questione fondamentale. Per quanto riguarda poi la questione di quello che è successo per le elezioni, dobbiamo stare attenti, perché io non vorrei che quando si fanno gli slogan, il vento cambia, eccetera, eccetera, bisogna stare attenti che i processi, quando si mettono in moto, bisogna sempre tenere la barra dritta e andare in quella direzione, perché non vorrei che poi, passato l'entusiasmo, passato l'euforia del momento, poi ci si trova fare dei passi indietro. Per cui, come dire, le primarie devono essere un momento dove tutti, e qui io non lo so, cioè ci devono essere delle primarie vere, cioè nel senso che prima tu Danilo dicevi dobbiamo trovarci per concordare il programma. Io penso che nella fase delle primarie ci debbano essere più realtà che si presentino con le loro persone e con i loro programmi. Poi nella fase successiva, cioè quando abbiamo trovato l'eventuale candidato sindaco, è chiaro che allora bisognerà muoverci in modo comune, perché poi dopo non ci dovranno essere situazioni dove il candidato non ci va bene, ci tiriamo indietro, eccetera, eccetera. Comunque, come dicevo, noi ci stiamo muovendo in questa direzione e non abbiamo, anche dal punto di vista, come dire, di quelle che sono le persone, gli eventuali candidati, è vero che è ancora presto, però sarebbe opportuno che cominciamo a pensare anche a questa cosa qui, perché avere un candidato, avere più candidati, come dire, è una questione fondamentale, perché sono importanti i programmi, ma sono importanti anche le persone. Grazie, professore. Nei tempi, prego. Chi più? Prego. Presente. Sono qui come presidente del Senato delle Donne e editore di Gioia Donna. Io sono d'accordo con il discorso delle primarie, però volevo sottolineare un discorso per non ripetere sempre le stesse cose. È importante avere veramente più candidati per avere più una rosa di possibilità e in un secondo momento poi veramente fare una costruzione comune. Io credo che Milano e Napoli ci abbiano insegnato delle cose fondamentali. Ci hanno insegnato che si può trovare un candidato anche fuori dai partiti. E io credo che in questo momento è fondamentale trovare qualcuno che sia, non chiamiamolo corrotto, scusatemi il passaggio, però dai partiti. Deve essere una rappresentante che ha una credibilità reale nel territorio e che veramente prenda a carico il problema dell'amministrazione comasca. L'amministrazione comasca, la nostra città sta andando letteralmente a rotoli, quindi a questo punto ci vuole che qualcuno nomina, prenda su di sé l'incarico di essere un amministratore di questa città e non una persona che prenda su di sé il potere e lo gestisca come è stato gestito in questi anni. Quindi io credo che bisogna in qualche modo trovare una persona che veramente abbia coscienza di questa cosa e soprattutto abbia coscienza anche dei limiti amministrativi di questa cosa e anche economici di questa situazione, perché siamo arrivati a una situazione di sfascio totale economico. Quindi un candidato che sa benissimo che non promette, come abbiamo detto, il paese dei balocchi, ma che dica che la realtà è questa e non può promettere il giardino dell'Eden. Io ho finito. Ho lasciato il mio cellulare. Chi c'è? Prima. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Ti aspettiamo. Sì. Va bene. Chi tocca? Ho voluto appositamente parlare di candidato. Forza. Se nessuno interviene, cominciamo a tappeto. Io volevo solo fare una domanda e chiedere se è opportuno rivolgere questa domanda solo al PD o è più opportuno rivolgerla a tutte le forze. Perché appunto c'è un po' questa situazione, cioè, che ci sia una debolezza estrema della... No, però con calma, cioè chi vuole parlare alza e fa un ragionamento. Se vuoi parlare, Marta? Sì, la mia domanda sta andando avanti la cosa. Allora prego, devi presentarti e di parlare. Lo so. Alzati. Se no, 40 persone non è... Nonostante appunto ci sia una debolezza estrema dell'opposizione, c'è un frazionamento altrettanto estremo che è incomprensibile. Quindi sicuramente a tutti, cioè la forzatura secondo me deve essere non solo nei confronti del PD ma di tutte le forze che vorremmo fossero coinvolte, forze o realtà, cioè in sue forze politiche, sì, sì, insomma realtà presenti. Prego. Io? Allora, io sono Faggiano Raffaele del Comitato Acqua Pubblica dell'attuale segreteria. Da metà degli anni 80, metà degli anni 90 ero residente a Como, quindi facevo politica in città. Dopo sono stato su Faggeto per 17 anni, mi sono occupato di quello che succedeva a Faggeto. Francamente non siamo stati contenti, almeno io non sono stato contento del risultato a Como del referendum, speravo in qualcosa di più, anche perché poteva diventare un tavolo di prova per tutti noi per prepararci per dopo fare l'amministrativa a Como. E francamente da parte dei partiti ho visto lo zero assoluto. Noi non siamo stati neanche in grado, più di alcune iniziative a Como, di organizzare neanche i banchetti perché dovevamo seguire tutta la provincia. Le primarie secondo me devono essere il più democratiche possibile, cioè dobbiamo vedere quali sono le regole. Io non conosco le regole del PD per organizzare le primarie, come vengono fuori i soggetti e tutto, ma certamente secondo me vanno viste e riviste se vogliamo far partecipare associazionismo, persone, gruppettarie. Più sono aperte, secondo me, meglio è. Poi in base a chi uscirà, lavoreremo assieme a lui. Io sono pronto a lavorare con chiunque, però secondo me anche in questo passaggio dovremmo verificare con chi siamo disponibili tutti ad aprirci, verso quali forze politiche. Io guarderei dai grillini fino a Di Pietro, fino al PD, Rifo, SEL, tutti i gruppi e associazioni possibili e immaginabili che ci sono, quindi non so, valutiamo bene come sono i passaggi da fare. Basta. Magari fare un censimento. Grazie. No? Un censimento. Tarpini, prego. Presente a Como. Alessandro Tarpini. No, ho lasciato via una cosa, che partecipano i cittadini con maschi, però, che ci partecipano i cittadini con maschi. Grazie. Io vorrei sommessamente ricordare per me stesso, prima di tutti, che oltre a Milano e Napoli abbiamo vinto anche a Bologna, a Torino, in una serie di altre città, perché a me convince sempre meno questa idea che per svolgere un ruolo di natura politica bisogna essere totalmente estranei alla politica. Mi permetto di ricordare che Como è governata da 20 anni da uomini che non arrivano dal mondo della politica, fanno parte della cosiddetta società civile e i risultati sono... Questo perché io credo davvero che questa idea di anteporre un qualsiasi ragionamento al fatto che se la politica sta fuori o sta abbastanza lontana, intesa come la politica dei partiti, questa cosa può aiutare un processo nella città di Como. Peraltro io mi permetto anche di dire, avendo seguito da vicino perché ho molti amici a Milano, che a Milano non è accaduta questa cosa, a Milano abbiamo assistito a un fenomeno diverso, nel senso che il mondo della politica e dei partiti si è messa al servizio di un progetto, lo ha fatto in maniera intelligente, come non sempre avviene purtroppo, e questo credo sia stata la chiave di volta che ha permesso di arrivare a quel risultato. E la prima chiave di volta, prima ancora di quella, è lo strumento delle primarie. Io sono proprio d'accordo che qualsiasi ragionamento non possa prescindere nella città di Como da l'affermazione netta da parte di tutti quelli che vogliono mettersi in gioco rispetto alle cose che voi state dicendo, che le primarie devono diventare, mi viene un altro termine, la nostra religione come primo atto necessario per intraprendere questa strada. Per questa ragione considero francamente un po' improvvide alcune affermazioni che sono state fatte da alcuni dirigenti del partito con cui sono iscritto, non ho nessuna difficoltà al circo, però credo che da lì si debba partire. Sia necessario anche fare qualche ragionamento anche dal punto di vista dei contenuti, perché io credo che non sia sufficiente in una città messa come è messa oggi Como concentrarsi esclusivamente sul nome di chi dovrà fare il candidato sindaco, nel senso che ci sono problemi di dimensioni colossali sulle questioni più significative che riguardano il futuro di questa città, su cui mi verrebbe da dire che siamo persino un po' in ritardo a provare a focalizzare qualche ragionamento. Le ultime due cose che voglio dire, che ho finito perché vedo Michelini che mi guarda giustamente già male, è che le primarie devono essere vere. Le primarie devono essere vere. Per fare questo è necessario avere dei candidati che ci credano, che giocano la loro partita fino in fondo e che lo facciano con lo spirito corretto. E la seconda questione, mi permetto anche di dire un'altra cosa, che se questo processo porterà finalmente a una svolta e a vincere le elezioni da parte di una compagine diversa rispetto a quella che governa da 20 anni la nostra città, ci sarà anche un problema di chi metterà piede dentro quel consiglio comunale, che probabilmente ci sono due consiglieri comunali che peraltro fortunatamente sono tra quelli che lo stimo maggiormente, però mi permetto di dire che qua qualche... No, c'è anche lui, sono tre. Questo è un altro dei problemi che noi abbiamo, nel senso che, fatemela dire così, ho avuto la sensazione in questi anni che non sempre si sia stati all'altezza anche dal punto di vista della qualità della politica che vuole la serie siamo stati in grado di esprimere. Bene, grazie per essere rimasto nei tempi, prego. Chi vuole parlare? Vieni a prendere questa sedia. Signore, stiamo perdendo minuti preziosi. Chi vuole parlare? Scusa, siccome c'è un attimo di silenzio, solo una proposizione, una, perché mi ero dimenticato. Danilo aveva fatto cenno ad altre situazioni analoghe a queste che si stanno sviluppando, dicendo non sono concorrenziali, anzi che ben vengano. Assolutamente sì, però bisogna armonizzarle, eh? Assolutamente, perché se ognuno va per conto suo è il disorientamento, quindi ben vengano situazioni simili, però ci vuole una regia e un'armonizzazione. A breve. Gianfranco Giudice, prego. Io faccio una premessa di 30 secondi, appartengo a quelle persone che sono anni che hanno abbandonato la partecipazione politica dopo averla sperimentata per circa 20-25 anni e non faccio che testo per me stesso, quindi evidentemente è solo per dire che magari effettivamente a conferma di quello che diceva prima qualcuno, il fatto stesso di innescare un meccanismo partecipativo nuovo può effettivamente suscitare anche una partecipazione in chi probabilmente guarda in modo molto disincantato e sfiduciato appunto la politica. Fatta questa premessa, tre osservazioni rapidissime. La prima è questa: come è una realtà difficile, chi ha fatto esperienza politica la fa adesso in consiglio comunale, l'ha fatto in passato, ha conosciuto esperienze elettorali, sa insomma come anche rispetto alla vicinissima Milano la situazione insomma è ben diversa rispetto a Lecco, rispetto a Sondrio, insomma anche città vicine a noi. Però effettivamente nel 2011 le vicende che tutti conosciamo probabilmente segnano la fine di un ciclo politico. Questo è un dato che va verificato fino in fondo, insomma, intendo a livello nazionale. Quindi anche la realtà di Como, anche la città di Como, nonostante tutto, potrebbe, usiamo il condizionale, potrebbe, complice un elemento che è grande come un macigno, insomma, e cioè la situazione evidentemente scandalosa del governo di questa città, però questo da solo non basta, è una condizione certamente necessaria, ma non è sufficiente, perché la città di Como è ferma ed è bloccata appunto da 20 anni, però nelle tornate amministrative precedenti i cittadini di Como hanno sempre costantemente riconfermato la fiducia agli amministratori di centrodestra. Oggi c'è questo elemento politico di carattere generale che potrebbe innescare un meccanismo nuovo. Allora l'intelligenza nostra intendo le persone che sono qui, ma insomma più, anche al di là di quelle che sono presenti questa sera, cioè di chi comunque è all'opposizione, è quella di riuscire a cogliere tutti gli elementi che possono consentire di sfruttare questa contingenza, perché poi la politica si fa anche sulla base di elementi che sono del tutto contingenti. Allora, per fare questo, lo strumento, la seconda rapidissima osservazione, condivido evidentemente, altrimenti non sarei neanche venuto alla serata, lo strumento del divano. È chiaro che questo può essere uno di quegli elementi che possono innescare un meccanismo, a condizione, però, diceva prima uno insomma nella precisazione, ma lo dicevi anche tu insomma, che effettivamente questi realizzino la più ampia unità di tutte le forze che in qualche modo non si riconoscono nell'attuale quadro politico, perché una delle esperienze del passato, e qui lo dico anche in termini autobiografici rispetto a quella che è la mia esperienza passata, insomma sono un ex politico di professione, quindi insomma ho conosciuto nel passato alcune vicende, insomma. Ecco, la divisione, il campanilismo, a come esistono realtà amministrative di opposizione, tu prima hai citato Paco, insomma, cioè esiste un quadro che oggi potrebbe conoscere una spinta unitaria, però sappiamo che insomma, va costruita questa cosa qui, non è che esiste già. Ecco, io credo che la condizione sicuramente importante è quella di realizzare il più ampio schieramento possibile, che non escluda sulla carta nessuno, io sono profondamente convinto di questo, nessuno anche tra coloro i quali, e questo è un altro elemento importante, si sono riconosciuti, qui non parlo di nomi, giustamente anch'io non credo che ci sia un problema di individuare su un nome, un identikit, ma anche pezzi di questa città, della sua classe dirigente, del mondo economico, insomma, sto concludendo, che si sono riconosciuti anche nel centrodestra, ma che oggi in qualche modo, parlo anche di cittadini, insomma, hanno sotto gli occhi il disastro amministrativo di questa città. Ora, questo secondo me è un altro elemento fondamentale. Quindi l'ultima osservazione, che voglio fare è questa: è fondamentale individuare pochi chiari elementi di carattere programmatico. Secondo me questa è la condizione cruciale. Cioè, questa città, io non sono un cittadino di Como perché abito nel comune di Blevio, ma sono comasco d'adozione, vivo sostanzialmente a Como. Allora, anche un cieco si rende conto di qual è la condizione di questa città. Allora, io credo che i cittadini di quelli, diciamo, del capoluogo, insomma, ecco, debbano essere fortemente stimolati da questi elementi programmatici, che in qualche modo facciano intravedere la possibilità in questa città di affrontare e risolvere almeno qualcuno di questi problemi, perché, voglio dire, qui siamo persone tutte, diciamo, sappiamo di cosa stiamo parlando, ma insomma, però ecco, far capire che questo è possibile, che insomma, che in questa città il problema delle aree dismesse, della viabilità, le opere incompiute, insomma, ecco, su questo, però ecco, un programma che sia veramente percepibile, comprensibile, che dica a questa città è possibile una svolta. E io credo che questi siano gli elementi fondamentali per provare a giocare la partita, dopodiché è chiaro, la partita si giocherà. Grazie Gianfranco. Prego. Beh, io voglio ripetere cose. Presentati. Mi chiamo Tonina Santi, rappresento me stessa. Anche perché devo dire la verità, da un po' di tempo ho fatto molta fatica a trovare luoghi dove si possa elaborare un pensiero politico, una visione della città o della politica, senza andare contro a delle idee già ben precise, dei blocchi mentali che hanno in particolar modo partiti. Dite anche quelli della sinistra, anche soprattutto quelli della sinistra, che se dici qualche cosa che va un po' fuori dallo schema, eccetera. Vabbè, non trovando luoghi, adesso io parlo per me. Io fra l'altro non abito più a Como da 20 anni, anche se conosco meglio Como del paese in cui abito, e Como comunque è importante per tutto il territorio provinciale, per il periodo della viabilità, degli orari, degli uffici, eccetera. Come è organizzata Como, se è organizzata bene, stiamo bene anche noi quando dobbiamo troppo forza venirci, si soffre anche il resto del territorio, che Como è proprio loro. Allora io direi che possono andare di pari passo le due cose, nel senso lo studio, il prepararsi a come governare e soprattutto a come sviluppare un'idea di città vivibile, dove io poi qui parlo anche come donna. Non so, per esempio, quando parliamo di conciliazione, com'è organizzata la città, gli spazi, i luoghi, la mobilità e tutto così serve anche a far vivere bene una famiglia, non farla vivere bene, cioè non la lancio io, non ho intenzione di capitolare. Comunque, sviluppare un'idea di una città possibile, di una città vivibile, con i suoi spazi. Abbiamo visto che ho l'angoscia quando passo davanti ai carabinieri e vedo la cementificazione che è stata fatta in Monte Vico. Ma la si fa in maniera, io lo so, l'opposizione non può dire niente, non c'è un filo d'erba, non c'è uno spazio, lì ci andranno a abitare famiglie, bambini, eccetera, dove vanno, cosa fanno? Questo nessuno se lo chiede mai. Come vive l'infanzia, l'adolescenza, che quando si parla di servizi si parla di nidi, ma i servizi sono i parchi. Sono gli spazi per gli adolescenti, questa è un po' la mia, diciamo. Comunque, sapere qual è la città che voglio, pensarci ben bene e nel frattempo lavorare anche per trovare una persona credibile che abbia voglia, che sia brava, che sia onesta, che abbia voglia di cimentarsi in una questione così. Non credo che si debba, devo dire, prima una o prima l'altra. Comunque lo la formazione, lo studio, il chiarirsi di com'è bene, di come è stato fatto lo scempio, anche se lo vediamo, sono cose, e di come non vogliamo più farlo e di come vogliamo veramente vivere in una città. Grazie Tonina. Prego. Prego Rosalba Benzoni. Sono Rosalba Benzoni del Partito Democratico, anche se stasera ovviamente intervengo titolo personale a portare quelle che sono le mie posizioni e quelle che sostengo all'interno. Intanto volevo condivido quello che è stato detto sull'utilità dell'iniziativa di questa sera e su quello che verrà avanti, perché credo che possa contribuire ad aprire una fase di confronto, di tessitura, di relazioni tra quelli che vogliono cambiare le cose in questa città. Io sono convinta che questa volta ci sia veramente la possibilità di un cambiamento, perché percepisco a Como non solo l'insofferenza per la cattiva amministrazione che c'è stata in questi anni, ma anche la voglia di aprire finalmente questa città a una modalità diversa di fare politica, di fare amministrazione, di costruire un livello di vivibilità della città e anche, come dire, una sua capacità di essere davvero il capoluogo di una provincia, perché questo credo che anche questo debba essere uno dei temi del programma, del progetto, perché Como è una città che sembra avulsa dal resto del proprio territorio, che non costruisce, che non è il baricentro e anche il motore di un territorio che si muove, che innova, che cambia. Per quella che è stata il percorso di discussione che c'è stato fin qui nel Partito Democratico, io credo, sono convinta che l'idea delle primarie sia un obiettivo largamente condiviso. Anche nell'ultima direzione che c'è stata, questo tema è stato portato, credo, in tutti gli interventi, i consiglieri comunali che sono qui hanno partecipato, e quindi il senso di arrivare con un percorso molto partecipato a questa scadenza io credo che sia assolutamente prevalente, perciò credo che possiamo avviarlo questo percorso senza pericolo di chiusura. Però sono anche convinta che dobbiamo pensare a un'idea di primarie che siano primarie vere, nel senso che siano precedute da una fase di confronto, mobilitazione, articolazione di rapporti con tutte le realtà associative, di esperienze civiche, con personalità anche significative, indipendenti che ci sono nella città e che possono portare un contributo di professionalità, di conoscenze, eccetera, e dal quale possano emergere candidati dentro e fuori dai partiti, perché non credo che l'esclusione a priori di chi appartiene a una esperienza politica o ha fatto politica debba essere un pregiudizio. Credo che non ci debbano essere pregiudizi nei confronti di nessuno, purché il percorso verso le primarie sia un percorso in cui si faciliti l'emersione personalità in grado di costruire delle primarie dove ci sia un'effettiva contesa. E per questo a me non piace usare il termine primarie di coalizione, perché mi danno l'idea, è vero che non c'è forse un altro termine, ma mi danno l'idea del rappresentante portato lì da ciascuna delle forze politiche, no? E che le primarie le abbiamo fatte anche l'altra volta, no? Alle elezioni. Non so se sono state vere primarie o se sono state un percorso comunque, era anche una fase magari iniziale di sperimentazione di queste modalità. Però ecco, io credo che debbano, per essere primarie vere, dove c'è una contesa vera, debba esserci prima un grande lavoro di mobilitazione all'interno della città, nel quale le forze politiche credo che debbano essersi e porsi come strumenti di sostegno, di guida anche, di servizio a un processo molto più largo che si innesca e che si avvia. Grazie Rosalba, prego. Stefano Subico, UFPR. Il mio ruolo, cioè noi siamo apartitici, cioè non ci possiamo collegare che su un partito, però siamo politici. Quindi il candidato sindaco, io lascio per il discorso primario che è stato fatto da tante persone, credo che debba parlare innanzitutto non alle realtà politiche, ma ai cittadini, cioè a tutti i cittadini, che siano laici, cattolici, protestanti, gay, lesbiche, perché deve riuscire a coinvolgere tutta la massa, da destra a sinistra, perché quando si amministra una città, il cittadino, tendenzialmente, non gli interessa che chi la governa sia di destra o di sinistra, ma che sia governata bene, perché alla fine è quello che conta. è che il nostro territorio viva. Se a me viene da un uomo di destra e so che vale, io lo voto, anche se tendenzialmente sono di sinistra. E deve essere fatto il principio all'inverso. E se le vengo o da destra o da sinistra, non dobbiamo ammazzarle perché sono dalla controparte, ma dobbiamo imparare a collaborare con tutti. Il vicepresidente Guelfo Como, Cristina lo sa, è un fascista. Io con lui ci lavoro benissimo, perché per il WWF ci sta dando l'anima. Ci scontriamo a livello politico, perché lui era su due idee. Però quando si tratta del WWF, discutiamo, ne parliamo e stiamo portando avanti dei progetti assieme, nonostante le nostre idee politiche siano diverse. Un sindaco deve sapere di adorare la vita. Grazie. Prego, c'era iscritto a parlare. Presentati, grazie. Mi chiamo Salvatore Amura e non abito da molto a Como. Voce! Non ti sento! Non ti sento! Non abito da molto a Como, per cui non conosco moltissimo quali sono tutte le dinamiche storiche anche che hanno fatto parte di un patrimonio politico. Devo dire tra altre cose, ahimè, forse anche meglio, nel senso che sono un po' forse meno attento a quali sono le tante dinamiche politiche che hanno fatto un po' la storia di questo comune. Beh, certo, non c'è nessuna situazione facile rispetto a queste grandi istanze di cambiamento che stanno attraversando questo paese. Se qualcuno avesse detto ai tanti amici di Milano, 6 mesi prima delle elezioni di Milano, se qualcuno pensava che Pisapia avesse vinto le elezioni, la gente ti guardava e diceva, beh, insomma, sì, carina come idea, ma forse... Se qualcuno pensava che all'indomani dei 10-15 anni di governo del centro-sinistra della città di Napoli, con l'ultima esperienza della Iervolino, avesse rivinto una compagine in centro-sinistra a Napoli, gli avremmo dato del pazzo, insomma, e così via. Per cui, per non parlare dell'esperienza di Bologna, che era un'altra esperienza che aveva visto fortemente in crisi il centro-sinistra, tant'è che la destra addirittura aveva azzardato la candidatura di un esponente della Lega. Insomma, io penso che noi non dovremmo sottovalutare quella che è la grande trasformazione che in questo momento sta coinvolgendo tutto il paese, che non è solo una trasformazione politica, ma è anche una trasformazione sociale, e in cui si muove un disagio enorme. Il disagio economico, perché ormai sono più di 3 anni, io tra le altre cose faccio politica, perché faccio l'assessore al bilancio delle finanze di un comune, per cui mi occupo quotidianamente di quelli che sono i problemi delle persone. E noi non abbiamo mai, tra le cose, in un comune del nord Milano particolarmente ricco, agiato, insomma, di quella nella filiera tra Milano e la Malpensa, dove insomma lì ci sono sempre state realtà di una certa solidità anche economica. Noi non abbiamo mai visto la situazione che viviamo, il mio ufficio in comune di fianco all'ufficio dei servizi sociali. Io non ho mai visto in questi anni quello che stiamo vedendo e quello che sta accadendo negli ultimi mesi. Ormai si rivolgono ai servizi sociali quelle che sono le categorie anche più interessabili. E chi esce fuori dal lavoro, come ben sapete, praticamente non ha più possibilità di rientrarci. Il sistema del precariato diffuso che coinvolge particolarmente i giovani ormai è devastante. Insomma, c'è un quadro di disagio sociale enorme che, se noi lo contestualizziamo nella situazione di Como, io ho sentito prima le parole molto preziose della signora Benzoni che diceva: attenzione, non ci sottovalutiamo, perché Como in questa città ormai è un disagio enorme, e che secondo me ci sono ormai diversi segnali, diversi indicatori. Io lo dico così, probabilmente anche da poco esperto delle questioni comasche, ma ogni segnale ormai è buono per esprimere un dissenso complessivo a questa compagine di centro-destra che è completamente devastata, in crisi, ha perso completamente quella che è la bussola. Insomma. Tra altre cose, anche questa gara, voglio dire, a candidare i consigli comunali di opposizione a una mancanza, a una incapacità, vuol dire di fare azione di contrapposizione, forse segna anche un po' una vostra impreparazione. Noi dobbiamo sapere che ormai il Consiglio Comunale ha praticamente nessuna competenza in materia decisionale esecutiva, se non una competenza meramente di rappresentanza e nulla più. Quello che conta è l'esecutivo, quello che conta è il sindaco e forse qualche appoggio di tutta, insomma, che può dare il sostegno. Per cui c'è un quadro di governo che secondo me è molto complesso da affrontare. C'è un grande cambiamento in atto. Adesso devo dire, gira qualche mail, gira qualche telefonata, apriamo un profilo in Facebook e abbiamo una sala di persone, insomma tanti potevano venire, per cui cioè, c'è un po' anche di entusiasmo che è in attesa che da qui in questa città arrivi un segnale importante. Secondo me sì. E allora noi dobbiamo anche essere pronti con entusiasmo e anche con un po' di gioia, devo dire, a interpretare questa istanza di cambiamento. Bruno Salatino all'inizio praticamente ci ha dato un'indicazione strategica, secondo me molto chiara, cioè nel senso che è vero, ci rivolgiamo al PD perché è il partito più importante, perché è il partito che deve arrivare, come posso dire, che ha fatto un modus operandi secondo me molto prezioso e molto intelligente. Mi sembra assodato che nessuno in questo momento può dire che le primarie non siano uno strumento utile, importante e che possa dare una traccia di valore. Naturalmente lui diceva nella seconda parte del ragionamento, che mi è sembrato molto utile, quella di dire armonizziamo le tante iniziative che sono presenti. Armonizziamo però vuol dire anche che, attenzione, ci sarà un ruolo importante da far giocare alla società civile, ci sarà un ruolo importante da far giocare ai partiti politici, senza particolari protagonismi che secondo me hanno solamente l'obiettivo di inquinare i pozzi. I pozzi sono stati inquinati per tanti anni, adesso abbiamo invece bisogno di un cambiamento forte da parte di tutti, per cui ognuno si dovrà assumere la responsabilità. Chiudo con le ultime due questioni rapidissime. Visto che poi le primarie, come è stato detto, sono anche una gara, in una gara ci sono anche posizioni differenti che entrano in gioco e che tendono a coinvolgere quella che è l'attenzione dei cittadini. Io vorrei dire anche che, con un po' di coraggio, perché sia importante, cioè diciamo anche quelle che sarebbero le cose importanti da fare per questa città. Due o tre cose, tre o quattro punti secondo me così primo punto, la questione del territorio, cioè quale tipo di sviluppo vediamo nei confronti rispetto al futuro di questa città. Secondo, c'è un problema trasportistico. Evidentemente per me che vengo da fuori, a me sembra un'indecenza che questa città vede come l'automobile l'unico mezzo per distruggerci la vita da qua per i prossimi 30 anni. Non è possibile pensare a un'idea di mobilità alternativa che in questa città si avvicini finalmente ai cittadini. Terzo, c'è un modello partecipativo che ormai è diffuso in tante città, c'è il nord Europa che ce lo insegna. Io credo che il coinvolgimento dei cittadini talvolta possa dare un rapporto anche positivo a quelle che sono le decisioni importanti. Quindi dicendo, il prossimo passo è cominciare a definire quelli che sono appunto i punti di programma e cominciare molto serenamente ad individuare alcune figure, alcuni protagonisti che possano accompagnare questo processo di primaria ed aprirlo il più possibile a quelle che sono le dinamiche di questa città. Con coraggio, con forza, con entusiasmo. Ce la possiamo fare, proviamoci, no? Grazie, Salvatore. Scusate, io sono molto rigido, però l'idea è sempre quella della partecipazione, no? Abbiamo una serata che ha un tempo limitato, siamo in tanti, essendo la prima riunione, penso sia bello ascoltare veramente l'opinione di tutti per avere anche il polso della situazione. Per cui è per questo che sono un po' rigido e antipatico, lo faccio solo per questo. Prego, come ti chiami? Chi si era iscritto? No, c'era Enzo. Prima di te, poi. Mi chiamo Enrico Enzo, intervengo a titolo di fabbrica di Nick di Como, sono stato uno dei fondatori e oserei dire tra le persone che Bidenzo ha più creduto al principio di indire primarie a vario titolo, speriamo anche quelle nazionali. Dopodiché la fabbrica di Nichi, così come diceva Tarpini, è una delle tante fabbriche molto in crisi e siamo in cassa integrazione anche noi, cioè l'attività effettivamente non le svolgiamo e tra l'altro non percepiamo neanche la cassa integrazione. Comunque, quindi il tema economico, il tema sociale è sicuramente all'ordine del giorno. Io tra i vari interventi ho sentito, come si può dire, soprattutto la signora Benzoni e altri soggetti del PD, come dire, puntualizzare molto l'idea che i partiti debbano essere incisivamente presenti. Io sostengo l'esatta tesi opposta, cioè ho vissuto a fondo il tema dei referendum dell'acqua in primis e vi assicuro, come i risultati accertano, dimostrano che andare verso la società civile, verso una, come si può dire, cittadinanza attiva, la gente ti vota al referendum di destra, di sinistra, leghista, non ti sta a guardare se io sono considerato vendoriano o meno, se all'acqua pubblica ci mette, punto e basta. E si è mobilitato il 57% dei cittadini italiani, il 53% a Roma. Questo dà l'idea di come la titubanza di certi partiti nell'affrontare il referendum, la partecipazione più attiva di altri, tutto sommato ha portato molto. Cioè, questo, la campagna referendaria per tutte e quattro, in modo particolare che so che dietro ci ha messo su particolarmente il cappello al ovviamente al suo, cioè a quello del legittimo impedimento, da caso quello più partitico, più politico è stato il meno votato. Di poche percentuali. Questo dimostra, come si può dire, una tesi meramente vendoriana, se vogliamo, per dire, di ciò che è avvenuto, per esempio, nel processo di Pisapia. E qui contesto un po' da lì, avendo vissuto un po' collateralmente la campagna di Pisapia a Milano, cioè era molto più presente l'associazionismo di base, il movimentismo, le ACLI, la casa della carità di Don Colmegna e tante altre cose, e i partiti ovviamente qua e là facevano delle azioni, ma la vittoria, tant'è che poi nessun partito, lo stesso Luigi Vendola, che è andato in Piazza Duomo a fianco a Pisapia a dire il mio candidato ha vinto, lo stesso Pisapia ha detto no, scusa Niki, torna a Bari perché a Milano ha perso la società civile, se ci azzecca un po' poco, o ci azzecca come gli altri, insomma, mica tanto di più. Quindi questa secondo me è la modalità più partecipata, più convincente, senza troppi cappelli di segreterie di partito, di consiglieri comunali, traffico in sala per carità, ma che fanno dei protagonismi, che fanno. Piuttosto ovviamente credo che siamo in un territorio particolarmente difficile, se possibile più difficile di Milano, e per esempio cito una cosa capitata 24 ore fa, cioè Sua Santità Ratzinger ha nominato Arcivescovo di Milano scuola di comunione e liberazione. Il vescovo Coletti di Como gli ha già fatto i complimenti, gli ha già fatto. Allora, il mondo cattolico milanese, comasco, lombardo, fa una bella retromarcia, passare da Tettamanzi a scuola come reggente, diciamo, etico del mondo cattolico lombardo, andiamo indietro di 30 anni, ragazzi, prima cosa. Un tema, dopodiché volevo incentrare. No, vedo che ci stiamo sfilacciando, scusatemi, è veramente importante per ciascuno di noi l'autodisciplina. Visto che proprio la società, vorrei premiare la società civile, movimentisti e un po' meno i partiti, volevo far notare di come i temi, che così a titolo personale reputo assolutamente fondamentali, sono l'acqua a Como come va, abbiamo vinto il referendum, però qui c'è Puzza Depur che è in gestione della industria locale. Sintetico, Enzo, ti prego, guardi, abbiamo le paratie, siamo sicuri tutti che qua dentro e tutto il centro-sinistra non le vorrà assolutamente? Marco Zambrotta. No, non Zambotta, Zambotta è la Rinascimento, cioè il fatto che l'acqua del lago sia venduta alla bassa lombarda e che sia mercificata l'acqua del lago di Como, lasciando Piazza Cavour a un metro d'altezza di paratie 8 mesi l'anno, altro che il muro era molto bello, dovremmo dire. Quindi su questo tutti d'accordo che le paratie non vanno più, e quindi si butta giù il progetto. E i grandi dibattiti speculativi di aree speculative, l'area Sant'Anna, l'area dell'ex ospedale psichiatrico, l'eccessiva organizzazione, su questi temi tutta la compagine cosiddetta di centro-sinistra avrà una visione univoca? Io sinora non l'ha avuta e io non la vedo mica tanto. Grazie. Molto gentile, vi prego davvero, cerchiamo di rimanere ai tempi perché vedete tante persone vogliono partecipare. Prego, presentati. Sono Luca Sassi, buonasera a tutti, sono contento di essere qui, sono bravissimo perché sono venuto per ascoltare. No, anche noi siamo venuti per ascoltare. E quattro fatti, poi il mio contributo perché mi fa piacere che ci sia questa partecipazione da parte di tutti. Io abito a Como e sono qui, lavoro a Milano e sono stato molto lontano dalla politica attiva per tanti anni, dagli anni al liceo quando ho fatto politica appunto nella rappresentanza studentesca e fino adesso. Adesso anche lavorando a Milano ho avuto l'occasione anche di rivedere un movimento vero che viene dalla gente che voglia di partecipare, devo dire che mi è tornata molto la voglia di partecipare attivamente, quindi tanto ringrazio le persone che hanno promosso questa serata. Ci muoviamo con un po' di anticipo, questa è una bellissima iniziativa, quindi secondo me non bisogna lasciarla morire, questo deve essere solamente l'inizio. Stasera ci troviamo qua in una sala, io non la conoscevo, mi sono trovato davanti un cancello chiuso arrivando, per cui nonostante queste difficoltà comunque siamo in tanti, secondo me questo può essere veramente l'inizio di poi un movimento ancora più aperto a tutti. Quindi i discorsi più interessanti secondo me sono stati quelli al di là delle partiti sì, partiti no, più che essere un movimento secondo me escludente dobbiamo includere anche altre persone. Devo dire che la cosa che mi ha colpito di più in questi anni è la politica comasca, si è criticata prima come si è fatto in opposizione, è il linguaggio che è stato usato anche in Consiglio Comunale, non soltanto dai rappresentanti del centrodestra che conosciamo bene, gli ultimi avvenimenti, il 25 aprile a Como, anche l'inaugurazione del parco Zambro a Lago, insomma, un sindaco che è stato criticatissimo, danno proprio il segno di una persona anche molto arrogante che rappresenta bene tutta la sua compagine. Però devo dire che anche da sinistra, e non solo da sinistra, perché non voglio fare solamente questo, insomma, nell'opposizione, anche, c'è anche un ragazzo che si dà molto da fare in Consiglio Comunale, sia dall'opposizione sia da questo ragazzo che non parla solo così, c'è stato un utilizzo del linguaggio bassissimo, anche dal rappresentante del Partito Democratico, nessuno si è molto distinto. I fenomeni che sono passati alla ribalta nazionale li conosciamo, cioè anche lavorando a Milano i colleghi che mi hanno detto cosa succede a Como, bandiere lanciate, insulti, sfottò sugli accenti meridionali, veramente un linguaggio veramente scandaloso. Fra l'altro ho amici che lavorano anche a contatto poi col Consiglio Comunale così, che mi dicono che veramente hanno scoperto un modo di fare politica comunque veramente ridicolo. Allora secondo me sarà molto importante nelle primarie non scendere mai a questo livello di ridicolo, ma anche e soprattutto fra le persone che si presenteranno. Perché? Perché anche il modo in cui sono state gestite le primarie a Milano, io non sono un esperto navigato nella politica, per cui non so dire se il meccanismo primarie, possiamo fare un paragone fra quello che è successo nelle grandi città e quello che potrebbe succedere nella nostra città. Però che stile che hanno avuto comunque i candidati anche delle primarie a Milano nel confronto, insomma il livello era altissimo, lo sappiamo, e, però veramente c'è stato un confronto molto reale, molto onesto, e io quello che mi auguro per Como è che se si avvia questo movimento ci siano delle persone forti, non essere anche delle persone nuove. Sempre agganciando il fatto che lavoro a Milano, io vedo delle intelligenze comasche anche che per esempio sono poco conosciute in città ma che magari lavorano a Milano, ma lavorano anche in tanti altri posti, poi ce ne saranno alcuni nascosti anche qua e poi ci sono anche quelli visibili anche qua, però ci sono delle intelligenze molto forti che secondo me potrebbero essere coinvolte. Allora, proprio per dare un livello alto a questo confronto, e ripeto, sono contento di essere qua e chiudo dicendo che io ci sono, darò una mano, cerchiamo di raccogliere più gente possibile che dia una mano. Milano, la cosa che mi impressionava di più era che in certi momenti per le strade non si riusciva a fare 10 metri senza una persona che ti voleva dare il volantino di vis-à-vis. Veramente ci sono stati degli incontri, c'era tutti a Milano, non mi ricordo il titolo dell'incontro, per Pisapia, in cui la gente si radunava un momento prima e poi si distribuiva per la città a dare una mano chi come poteva per aiutare. Allora cerchiamo di fare la stessa cosa al Como, cerchiamo la prossima assemblea di non farla in una sala con un muro chiuso, magari anche di farla in un posto ancora più allargato e di passare, trasmettere una nuova cultura. cultura, perché questa città è bellissima, lo sappiamo, non deve essere solamente la città dove passare un fine settimana assolato, ma anche una città da tornare a vivere, da ripopolare anche con la cultura. Speriamo di esserci in tanti e di dare una mano. Grazie, comunque. Grazie. Buonasera. Bravo. C'è Guido, no, c'è lui, allora vi dico l'ordine. Prego, alzati, poi ci sarà Rosso, poi ci sarà un ragazzo che è là in fondo, poi ci sarai tu, scusate il nome del corpo, poi Guido Rodi e poi Stati. Questo è poi cercate di ricordare anche voi l'ordine perché io prego. Buonasera, sono Guido Capizzi, ringrazio il taglio di continuità di voce Guido. Ringrazio tanto l'ultimo intervento perché questo entusiasmo a chi è entusiasta non è da tanto tempo un po' di bene. Mi piace lo slogan di Danilo, fare rete, perché la rete comunque è quella forma di democrazia partecipativa, altro slogan che hai lanciato, che fortunatamente a me sta mettendo in crisi i partiti, anche i partiti della sinistra, anche i partiti della sinistra che sono sempre pieni di vecchi in età e anche in modalità. Fare rete, allora tanti iniziano ed è bene che siano tanti, è bene che siano sempre di più, che si coordinino, che facciano attenzione, secondo me, alle criticità presenti anche nel territorio comasco. Parlo di criticità che vengono evidenziate dai movimenti presenti anche nel territorio comasco, da movimenti femminili, da movimenti giovanili, da movimenti culturali, che spesso raccolgono però un variopinto mondo di delusi. Vengo da una due giorni a Genova di movimenti femminili dove mancava intanto la fascia giovanile, c'era però un bello slogan che potremmo anche aggiungere agli slogan di Danilo, siete rivolto dalle giovani alle vecchie, siete il nostro passato, siamo il vostro futuro. Quindi io mi auguro che giovani, e fortunatamente ce n'è ancora qualcuno presente ed entusiasta, accolga qualcosa che danno i vecchi, ma soprattutto ci mettano le loro idee che probabilmente sono anche migliori delle nostre. Poi attenzione alle criticità, alle problematiche reali della città. Per capire quali sono le problematiche, è bello che ce le raccontiamo noi, che ce le dicono le segreterie dei partiti, che ce le dicano i politici che siedono dove siedono. Però ci vuole anche un contatto molto stretto con il mondo associativo, con il mondo delle imprese, con il mondo delle organizzazioni sindacali, con il mondo del lavoro nel suo complesso, con le nuove criticità del mondo del lavoro, il precariato, che non è più solo dei giovani, ma è anche di chi ha 40-50 anni in tante situazioni, eccetera, eccetera, per scrivere un programma che sia frutto di un confronto reale, e quindi che poi possa magari produrre qualche novità. I nomi poi verranno, e magari se sono nomi di giovani è meglio che non di vecchi. Grazie Guido. C'è il ragazzo, sei tu adesso, giusto? Ti presenti? Non ti vedo. Sono Stefano Binda, visto che ci si deve togliere il cappello, devo mettere il cappello sull'iniziativa, sono della segreteria provinciale della Parità di Grazia. Stefano Binda? Sì. Lo dico perché mi sembra onesto, proprio per evitare in qualche modo di introdurre elementi di paternità rispetto a un'iniziativa a cui applaudiamo chiaramente, che è la prima iniziativa civica caratterizzata su fase di mobilitazione e che ci vede attenti, ma non attenti osservatori, ma depositari di una vera partecipazione nei vostri. Anzi, penso che dovremmo anche in qualche modo abbandonare la distinzione tra voi e noi a questo punto. punto di vista, perché quando una società si mobilita tutta, e della società fanno parte anche i partiti, e non hanno alcuna primazia, ma si mettono al servizio della società, e si aprono alla società perché la società inserisca competenze, idee, freschezze, energie, facendo prendere forma politica, iniziativa politica, alle energie della società. Anche perché in qualche modo noi viviamo questa mobilitazione che precede il momento elettorale in provincia e a Como, quindi ricordo anche in provincia, non soltanto nel capoluogo, questa è una puntualizzazione che ci tengo a fare. Dopo aver vissuto, come dire, tutta un'onda negli ultimi 15 anni in cui la società civile di volta in volta veniva avanti e sconfiggeva il populismo delle destre, il privatismo berlusconiano e il localismo della Lega, che hanno consegnato all'isolamento questa città, l'hanno consegnata alle sue corporazioni, l'hanno fatta affondare addirittura nell'incapacità più totale di fare lobby per il territorio, la lobby buona che, come dire, inserisce Como in un progetto sovraterritoriale e quindi le dà una vera vocazione anche rispetto, una vocazione unitaria rispetto al territorio più vasto della regione e del nostro paese. Ecco, volevo fare questa precisazione perché abbiamo vissuto ondate di partecipazioni importanti e che però talvolta non hanno saputo prendere quella forma politica, non partitica, politica, in cui però ci stanno anche le iniziative dei partiti, tali da sconfiggere, ripeto, le destre. Adesso siamo maturi, dopo 15 anni di berlusconismo, e credo che dobbiamo assolutamente abbandonare, fino a questa sera, ogni spirito di contrapposizione fra l'antipolitica e la politica cosiddetta di professione, anche perché tra di noi credo ci siano proprio pochi politici di professione, tra i partiti e la società civile. Ecco, io vorrei testimoniare rispetto alle presunte, talvolta reali, titubanze dei partiti di centrosinistra rispetto alle domande e alle istanze della società civile. Però ricordiamoci anche che anche quando la società civile cedeva il passo ai populismi dei partiti di destra, i partiti di centro-sinistra venivano un po' da male, ma in qualche modo rimanevano a fare una testimonianza inadeguata, ma rimanevano. E questo gli va sicuramente riconosciuto, come gli va riconosciuto che a introdurre le primarie come metodo sono stati i partiti, e in particolar modo il Partito Democratico. Vorrei testimoniare la decisione. Cioè, per una volta, negli ultimi tempi, il Partito Democratico è assolutamente inequivoco, privo di esitazioni e di ambiguità nell'abbracciarvi, nell'abbracciare il metodo delle primarie, nel rivendicarlo con forza come strumento di apertura fondato su regole che condivideremo nelle prossime settimane, sia su Como che per il territorio provinciale. Termino con una testimonianza che riguarda in qualche modo il clima di Milano, che è la città in cui lavoro. Ho visto così nel mio piccolo, da osservatore e da cittadino, un interessante spostamento di consensi, quindi non è soltanto stato un consolidamento del nostro consenso e uno smontamento di quello del centro-destra, ma c'è stato anche un interessante fenomeno di spostamento del consenso da quelle fasce, diciamo, di popolazione, di categorie economiche e sociali che tendenzialmente guardavano con interesse Berlusconi e Bossi. Ecco, da questo punto di vista, qual è stata la lezione? La lezione è stata sicuramente quella della mobilitazione indistinta e vivace. È stata anche la lezione, in qualche modo, di trovare nelle primarie uno strumento con cui la distinzione fra le candidature dei diversi partiti veniva meno, nel senso che Pisapia, che ha prevalso alle primarie di Milano, è stato presto sentito come il candidato di tutta la coalizione, non di Serra, e lo testimonia la risposta di Pisapia a Vendola all'indomani della vittoria milanese. Ecco, da questo punto di vista, quindi, se dobbiamo trovare un metodo, e qui mi riallaccio all'intervento di Bruno, se dobbiamo trovare un metodo con cui abolire la distinzione tra partito e antipolitica, tra società civile e, come dire, egemonia della forma partita in questa fase, dobbiamo condividere un regolamento delle primarie, gettare le basi per un'iniziativa convergente. Assolutamente, allora benediremo dei candidati, siano essi espressione della società civile, siano essi più direttamente implicati nelle formule dei partiti, al di là di ogni alchimia, e toglieremo qualsiasi tentazione alla società civile di fare da sola e ai partiti di ricorrere alle solite formule delle alleanze che non conducono da nessuna parte. Quindi assoluta, come dire, inequivocità, assoluta chiarezza, vi abbracciamo nella vostra vitalità, nella vostra freschezza. Grazie. Grazie Stefano. C'era. Prego. No, c'era loro. Sei dopo, aspetta, dopo e dopo loro. Prego. Ma dunque, innanzitutto io sono un po' a disagio a sentire questa distinzione tra società civile e mondo della politica. Ti sei presentato, Giampaolo? Sono Giampaolo Rosso e basta. Cioè, non c'è altre cose, ma qui sono Giampaolo Rosso. Però la massa è più che sufficiente per presentare. Sono un po' a disagio a sentire questa distinzione tra società civile e politica, ma anche società civile e partiti. A me piace piuttosto distinguerci tra società civile e società incivile, che ahimè c'è e talora attraversa anche le formazioni politiche, anche i partiti, e nella nostra città potremmo, come dire, per capire di cosa stiamo parlando, pensare a Via Milano, al rifiuto della cittadinanza, a mille scelte, ai balzelli su coloro che chiedono l'elemosina ai semafori, insomma, li conosciamo tutti, lascio perdere. Quindi per me il riferimento è questo. Questo non perché non veda che in questo periodo, per esempio, il mondo delle associazioni ha dovuto fare una supplenza politica importante. Sono anni che molti temi sono agitati politicamente e ahimè anche gestiti dalle associazioni, perché casomai i partiti non hanno trovato il modo, non hanno trovato la possibilità, e come dire, spesso c'è stata più politica fuori dei partiti di quanto ce ne fosse nei partiti stessi. Ma questo speriamo vada a risolversi. Quindi non mi piace nemmeno la distinzione tra politici di professione e no. Io credo di essere un politico di professione, nel senso che mi occupo di politica come principale attività della mia vita, sia come insegnante sia come giornalista, quindi mi pare che sia fare politica complessivamente. Detto questo, quindi benissimo le primarie, benissimo questa assemblea, ma non va per me bene, proprio perché non c'è questa contrapposizione, chiederle a qualcuno. Le primarie si condividono, non si chiedono a X o a Y, perché chiederle è identificare una qualunque di queste cose sbagliate: una sudditanza, e non c'è, una controparte, peggio ancora, una distinzione genetica, ma neanche vero, anche perché molti di noi sono in varie, ed è bellissimo questo, hanno molte appartenenze. Io sono contemporaneamente terrone e rosso, quindi basterebbe questo per darmi almeno due qualifiche. Quindi lascerei perdere, piuttosto chiederei ai compagni del PD di firmare con noi una presa di posizione che dice che le primarie sono un passo, a questo punto fortunatamente acquisito, ma assolutamente necessario e opportuno, e che debbano essere, come molti hanno detto, reali, partecipate, coinvolgenti, avvolgenti, come dire, rilassanti e quant'altro. Mi sembra però che bisogna anche dirci chiaramente che le primarie, almeno quelle che voglio io, avranno più candidati. Ma hanno più candidati, meglio, perché come peraltro Milano e tanti altri luoghi hanno dimostrato, e come dire, la teoria delle probabilità ci aiuta, il fatto che siano più candidati aumenta il consenso e aumenta anche la probabilità di condividere almeno una o più, perché a Milano molti condividevano più di un candidato, qualcuno addirittura tutti e tre, possa in qualche modo aiutarci nella scelta. E allora, se ci devono essere più candidati, a me sembra che prima di avviare la fase della preparazione, che è meritoria ma un po' prematura, io avvierei la fase della definizione dell'orizzonte. Allora, io dico il mio per comodità. Il mio orizzonte è quello che si muove nell'ambito della cittadinanza attiva, della democrazia partecipativa, della ridefinizione del rapporto pubblico-privato, per ribadire, come i referendum hanno dimostrato, che c'è una nuova sensibilità alla gestione pubblica dei servizi, e più ancora al diritto individuale e collettivo ai beni comuni. Ecco, questa è l'identificazione di un luogo. Ecco, io la vedo più adatta rispetto ai temi amministrativi. Francamente, per me il mondo non si divide tra quelli favorevoli e contrari alle parti. Io sono contrario, credo, dal 1425, ma il problema è che mi interessa di più se siamo quelli per gli asili nido o non siamo quelli per gli asili nido. Non confondiamo l'importanza degli obiettivi amministrativi con la necessità di avere anche un discrimine appunto tra civiltà e inciviltà. Io non voglio trovarmi con un candidato che come me è contro le paradie, ma come altri e come molti fascisti purtroppo, vorrebbe che una parte della popolazione inferiore venga lasciata fuori dalla città e casomai rinchiusa in un CIE o in qualcosa del genere. Ecco, preferirei non trovarmi in quella situazione e penso si debba dire da subito che questa assemblea, le assemblee che seguiranno, potranno identificare un percorso per questa parte della coalizione che, prima di Dio, non è detto debba essere tutto, l'unica parte, meglio che ce ne siano altre. Grazie Giampaolo, tocca... Allora Guido, tocca a Guido e poi tocca a te. Rifacciamo un riassunto, Guido, poi... Anziano. Come ti chiami? Non so, Gianni Pagliari, io non ci vedo mica. Poi ti tocca. Tramattino. No, c'è il giorno, tramattino e poi tramattino, va bene? E questo lo dico. Prego. Giulio Robi, presente. Io sono Giulio Robi e vabbè, quasi dicevo di cappello, cose così, io faccio parte dei giovani democratici, quindi sono stato PD, però questa sera volevo parlare a noi di una cosa che stiamo organizzando un po' trasversalmente, diciamo, ci siamo trovati uno di voi, in modo, diciamo, tra amici, e quello che noi avevamo in mente era, cioè noi le primarie le avevamo già per scontate. Non dico i nomi perché diciamo i giovani che fanno parte del PD e anche altri che stanno a fianco, e pensiamo che uso noi non per avere un plurale maiestatis, ma perché penso che sia davvero un sentimento che si sta formando, che ci sia davvero la necessità sì delle primarie, però io personalmente, che sono anche molti di voi, credo che la democrazia non si risolva con il voto, e secondo me è questo che bisogna capire. Perché per arrivare ai plenari bisogna dare un processo di partecipazione che sia più ampio che di questo. Cioè io vorrei avere 10 volte tante persone che ci sono qua e dare a tutti la possibilità di esprimersi. E appunto questa sera io volevo parlare a nome, non come capofila, perché non so, ci sono altri amici che hanno partecipato, di prossima fermata, per evitare di essere, chiamate, definiti rottamatori, perché prossima fermata. No, la prossima fermata a Como, perché è quell'iniziativa che si è filo rottamatore. Non siamo filo rottamatori, siamo riformatori. Cioè la nostra idea è quella che, perché l'abbiamo visto all'interno dei partiti anche, di dare una possibilità a tutti di esprimere la propria voce, perché è una cosa che manca, cioè è una cosa che manca negli spazi, come anche detto, mancano gli spazi per dare. Quindi noi stiamo lavorando da un po' di tempo per fare questo evento che è stato fatto in tantissime città dell'Italia, da Firenze, a Biella, a Varese, e noi abbiamo pensato proprio nell'ottica delle elezioni, perché pensiamo che bisogna andare anche oltre un po' alle persone che sono qua, non perché io ho niente contro loro, però andare un po' contro il cittadino, oltre al cittadino militante, cioè far partecipare chi proprio non ha idea di quello che è il sistema di apparato, ma magari delle buone idee o solamente un pensiero da esprimere. E possiamo fermare questa cosa, cioè 5 minuti ci si scrive, si manda una relazione, un documento, e poi si parla. Si parla, chiunque può esprimere, ovviamente ci deve essere un documento breve, che può essere sintetizzato in qualche minuto, e poi tutti possono parlare, ovviamente c'è un solo tema in varie rose di tematiche. Capito, il luogo fisico qual è? E noi ci abbiamo, vogliamo sbilanciarci adesso su quello che abbiamo detto per i permessi, abbiamo, ci sono alcuni interessati, noi volevamo andare, però è già bruciato perché non si può, però volevamo fare in centro città comunque, perché pensiamo che il centro debba essere riportato veramente sia un luogo di partecipazione, non dobbiamo aiutarci delle periferie, non perché io non sia contare la periferia, anzi, cioè come diceva Stefano Berri, la periferia non sta all'esterno, ma è un centro legale. Quindi se riportiamo un po' di qualità anche all'interno delle centro città, forse c'è davvero la possibilità di far rinascere questa città. Io l'ho fatto come sono quello magari che conosce perché come Facebook avevo fatto il gruppo Abbattiamo il numero di Como che era e credo soprattutto che la partecipazione via Facebook sia un modo davvero nuovo per coinvolgere le persone, però non bisogna anche chiederci troppo perché di quelle 8.000 persone che abbiamo iscritto poi una situazione a 1.000 e poi chissà magari bisogna veramente trovare una nuova modalità davvero questa volta di custodire qualcosa insieme dove far partecipare chi non c'è e credo che questo sia veramente una cosa importante andando al di là del concetto di contrapposizione sinistra, centro-sinistra, centro, ma andando veramente in quello che è il concetto secondo me di etimologico, di politico e di cittadino che hanno la stessa radice di due diverse fondamentalmente e noi dovremmo trovare quei nostri amici di questa città. Ringrazio Guido, tocca a Imperiali. Davide, all'inizio ci ha lanciato due messaggi paralleli, uno le primarie che abbiamo discusso ampiamente, tanto che è passato un pochettino meno in secondo piano quello della democrazia partecipata, cioè l'argomento per cui Danilo tiene da sempre e che è sempre da loro. A me in questo momento secondo me corrono paralleli, nel senso che sono molto diversi e nel secondo molto più complesso, in questo momento ci portano a coinvolgere gente, suscitare entusiasmo, convincere la gente a fare dei passi avanti. Insomma, in questo momento questa cosa è anche abbastanza facile, cioè siamo in una situazione politica generale un po' in cui il fare questo passo avanti a me sembra che sia, non dico scontato, ma sicuramente abbastanza facile. Poi ci saremo 88.000, dipenderà anche da noi, ma questo passaggio è il fare del passo avanti, io non è quasi per scontato. Io volevo dire una cosa invece un po' diversa sulla cosa della quale si è parlato, che è la seconda fase, perché secondo me questa fase più facile, a questa fase più facile di seguire un'altra che secondo me per come siamo fatti noi è un po' più difficile, che è la fase del passo indietro. Nel momento in cui si fa la sintesi, noi tutti dobbiamo avere il coraggio, partiti, associazioni, signori, di sin da adesso avere il coraggio di programmare il passo indietro, perché è chiaro che ci saranno delle mediazioni, ci saranno delle cose che non comprenderanno da una all'altra parte della coalizione. Secondo me se non si parte da questa capacità a priori del passo indietro, della sintesi, che poi vuol dire, perché sintesi è facile, invece il passo indietro è difficile, vuol dire meno protagonismo, capacità di una piccola rinuncia invece che di una... Questa è la cosa che secondo me... se non si parte con questo spirito anche la prima parte rischia di finire poi in un minestrone poco determinato. La seconda fase è la più difficile per noi di sinistra, per noi è la più difficile. Grazie. Poi ci sei tu? Fa Martino. Prima c'era lui di no, mi aveva dato prima. Sì. Va bene. Scusami, c'era prima per la gara. Mi chiamo Marcello Iantorno, diversi tra di noi ci conosciamo. Beh, intanto grazie per l'iniziativa che è stata presa e la ritengo assolutamente importante. E non direi che neanche tempestiva, perché siamo veramente al limite, diciamo, dei tempi entro i quali questo tipo di iniziativa doveva essere presa e per fortuna è stata presa. Ora, anch'io ho la percezione che per i fatti noti a livello nazionale, per le caratteristiche della città, per il modo come è stata governata, per le condizioni in cui si trovano, le forze di centrodestra che sostanzialmente sono disarticolate e l'un contro l'altro armata all'interno del PDL, tra PDL e Lega eccetera, ci sono condizioni importanti perché anche a Como, sia pure non sarà facile perché indubbiamente è una realtà che è quella che è, però ci sono le condizioni perché si possa anche qui fare un'esperienza diversa e storicamente veramente importante ed alternativa a tutta una storia che ci ha caratterizzato in modo diverso. Ora però perché si possa vincere cosa si deve fare? Ora io sono assolutamente perché le prime, io non si discute neanche, io lo do per scontato ed assodato che il metodo giusto sia il metodo delle primarie. Devo dire però che ovviamente il mio partito, io faccio parte del PD come alcuni di voi sanno, probabilmente su questo tema sta segnando un ritardo che spero che lo superi entro la fine di questa settimana. C'è una direzione importante il 1 luglio, parlo naturalmente a titolo personale, dove è vero che c'è una, diciamo, una, un orientamento maggioritario in questo senso, però ancora la decisione non è stata presa, avrei preferito che fosse stata già presa e quindi si fosse arrivata a questi incontri con un partito importante dell'opposizione che un po', se vogliamo, però senza nessuna voglia di egemonia o di mettere i cappelli a nessuno, segni un po' le agende dei percorsi piuttosto che subirle. Quali tipi di primarie? Attenzione, io non sono d'accordo su alcuni interventi che sostanzialmente parlano di percorsi di qualche settimana ancora, eccetera, eccetera. Io dico che intanto a giorni, oggi è il 30 giugno, domani a giorni bisogna dire sono indette le primarie. Quindi io spero che lo faccia il Partito Democratico oppure lo faccia chi lo deve fare. Però io credo che nel giro di 48, 72, 90 ore, ma veramente i tempi sono assolutamente ristretti. Ricordatevi che Pisapia il 2 luglio dello scorso anno si candidò e vinse, quindi ha fatto tutto un percorso, un lavoro sul territorio, nei mercati, tra le categorie, eccetera, che lo ha accompagnato praticamente quasi per un anno. Quindi noi non possiamo far passare l'estate, non deve passare l'estate, quindi le primarie vanno indette subito, quando? Naturalmente prima di dicembre, perché non si possono fare le primarie a gennaio se probabilmente si vota ad aprile o a maggio. Quindi che significa 15 novembre, 22 novembre, questi sono i dati. C'è l'estate, per cui poi il lavoro politico vero della schiera di candidati, perché si vince non se soltanto si fanno le riunioni importantissime di questa sera o le altre che faremo, ma si vince quando ci saranno delle persone che si candidano avendo i requisiti di eleggibilità con un minimo di presentazioni, 100 firme, va bene, 100 firme, che aderiscono a un progetto essenziale, sappiamo qual è, dopodiché si parte, devono partire da subito, dal 5 luglio, dal 10 luglio, cioè perché sprecare altri due mesi e mezzo, quando invece queste persone, perché la vittoria, i contatti con le categorie, col territorio, perché è tutto un lavoro importantissimo da fare, non unicamente all'interno dei gruppi, delle persone che noi conosciamo, ma c'è da conquistare tutta l'altra parte della città che ti può portare al 52%. Ma per far questo occorre che i cosiddetti candidati, se ci saranno, se ce ne sarà uno, sarà lui il candidato sindaco, se ce ne saranno di più, come è probabile, certo che è, ovviamente che sia un'espressione di tutti i candidati, sarebbe, io voglio dire in modo molto chiaro, sarebbe veramente un fatto negativo a questo punto finte primarie qualora il candidato alle primarie fosse espressione di un singolo partito, perché così ha deciso il partito, un po' la scelta che fu fatta a Milano con Goethe, che fu peraltro anche creò dei problemi interni e creò anche delle situazioni che secondo me non vanno ripetute. Allora si è detto da qualcuno, si dica chiaro e l'ho finito, cioè dire requisiti di eleggibilità, elettorato attivo e elettorato passivo, condizioni minime, lo 0, delle firme necessarie generalmente sono lo 0,29, tanto per dire, queste sono le esperienze delle altre città, ovviamente in tempi rapidi, in settimane, 2 o 3 settimane, la delineazione di un programma essenziale, che più o meno non è difficile farlo, veramente 2 pagine, perché poi sarà nel percorso del confronto e delle proposte che poi si arricchirà il programma stesso. Io credo che con questo metodo chi poi vincerà veramente le primarie, con una campagna elettorale già segnata da 3 o 4 mesi di lavoro, è già un leader in città. Grazie. Quindi con la possibilità di vincere. C'è, aiutami, sì, Edoardo Polidori della Federazione della Finica. Ecco, secondo me appunto, le primarie sono un buon mezzo di partecipazione democratica, io sono pienamente d'accordo. È necessario, ecco, continuare appunto in questo lavoro, appunto in queste riunioni di condivisioni e di partecipazione di intenti, di idee e di programmi, per, diciamo, per mettere insieme un programma. Secondo me non è necessario escludere persone a priori che provengono da partiti oppure da società azioni. Le primarie devono essere aperte a tutti, e piuttosto la distinzione verrà poi da sé sul piano, sulla sensibilità del soggetto, che porterà i suoi principi, la sua persona, il suo programma, e su questo punto si potrà poi fare una scelta di un soggetto che possa rappresentare la città e che possa essere soprattutto mediatore di diverse realtà, di diverse società, che è la cosa più importante, secondo me, poi soprattutto nel mondo, nella sfera, della sinistra, è quello appunto di essere capace di ascoltare, essere mediatore, ascoltare tutte le diverse anime, per poi appunto poter governare l'essere libero. Ovviamente i partiti, a mio parere, e anche le associazioni, una volta scelto il candidato, dovranno essere uniti e compatti e fare anche appunto un passo indietro sulla base del programma comunque che è stato condiviso. Grazie, prego. Stamattina Giardici di Paolo. Sono d'accordo con Giampaolo Rosso, profondamente, perché secondo me il problema è quello proprio dell'orizzonte, perché sta qua a discutere se vogliamo o no le primarie, mi sembra ormai scontato. Sta qua a dire partiti sì, partiti no, mi sembra abbastanza ridicolo. Cioè, voglio dire, a Milano il PD ha preso una paccata di voti perché ha saputo, ed era il PD, ha saputo mettersi in gioco in una situazione particolare dove la società civile è stata coinvolta. Allora, il problema è che secondo me è il coinvolgimento della società civile, perché è vero che c'è lui che è molto giovane, mi fa piacere, ci sono i giovani del PD che sono bravissimi, però gli altri sono sempre un po' i soliti. Non è che l'altra volta non c'erano, o meglio, qualcuno è tornato a far politica, giusto, e forse si è sentito coinvolto e quindi fa molto piacere. Però siccome io di campagne elettorali come Paco ne ho fatto almeno tre, e una come Verde Arcobaleno, abbiamo sempre coinvolto una paccata di gente. Se voi guardate le nostre liste, sono piene di società civile, da Giampaolo a Lorenzini, cioè a tutti coloro i quali hanno sempre partecipato bene o male. Il problema è il resto. Ad esempio, noi abbiamo fatto, perché Giampaolo, l'unica cosa su cui non sono d'accordo, mi spiace se andate via Giampaolo, è sul fatto che i partiti si fanno le loro cose. Noi ad esempio abbiamo fatto il referendum sui senza tetto. Secondo me a sinistra non si è stati cagati, assolutamente zero, anche quelli che dicono di essere la società civile non ci hanno cagato. Chi ci ha cagato? Ci hanno cagato le associazioni cattoliche, che sono state bravissime. Le associazioni cattoliche, una volta finito il referendum sui senza tetto, sono sparite. Perché? Perché evidentemente non sono interessate a una modalità, a un approccio che ha la sinistra nei confronti della politica. Allora l'approccio giusto, secondo me, è giusto quello di Giampaolo. Cioè non è il problema di dire, scusatemi, paratie sì, paratie no. Quello è un problema per quelli di sinistra. La ticosa è un problema. Io continuo a dirlo, sarò pazzo. Qua abbiamo due problemi in questa città. Chi farà il sindaco prossimo? Se è di centro-sinistra, io continuo a dire che sarà uno sfigato disumano, perché è peggio di De Magistris, ragazzi, è molto peggio. De Magistris, una volta messa a posto la spazzatura, c'è una città che magari potrebbe anche funzionare, perché non è vero che Napoli non funziona, non funziona per certe situazioni, ma noi abbiamo delle situazioni allucinanti. Cioè il centrodestra, se perde queste elezioni, le perde per colpa sua, non per merito nostro. È lì il problema. Allora, se le perde per colpa sua, è perché ha rovinato questa città. Questa città è ingestibile per i prossimi 5-10 anni, perché ci vogliono una paccata di soldi per metterla a posto. Perché chi è quel pirla che farà qualcosa in Ticosa? Infatti l'idea migliore che circola in quelli di sinistra o di destra è: facciamoci un bosco, tanto, oppure facciamo un bel ampliamento del cimitero, che è la cosa migliore, visto che Butti ha tolto il vincolo cimiteriale, rimettiamocelo, così almeno una funzione quel posto ce l'ha. Cioè, noi abbiamo il problema di che cosa fare delle aree dismesse. Cioè, silenzio, finisco velocemente. Abbiamo il problema di cosa fare delle aree dismesse, che mancano i soldi per fare le aree dismesse. Allora, primo, coinvolgere quello che c'è al di fuori. Questa è la cosa veramente difficile. Allora, ripeto, sono d'accordo con Giampaolo. Come facciamo a coinvolgere? Perché è un modello di città. Cioè, noi dobbiamo far sì che la buona politica, che esiste anche anche a livello nazionale, gestita dal Fili, da Sen, dai pachisti vari, eccetera, eccetera, sia una politica che riesca a parlare ai comaschi. Guardate che i comaschi sono tosti, eh? Cioè non è gente, cioè i comaschi, adesso chi è comasco di voi, io non sono comasco di adozione, ho quasi 60 anni, sono quasi 59 anni, mi sento, però sono nato a Roma, quindi mi ritengo comunque un cittadino del mondo più che un comasco, però no, al di là degli scherzi, il comasco, e ve lo dico per esperienza, cioè con Danilo abbiamo fatto i comitati di quartiere, cioè 60 anni fa, ancora un po', è vero o no? Cioè, oh, il comasco, al di là del giardino della casa propria, fa una fatica, boia a guardare. Se passa il, se c'è il senza tetto che dorme sotto San Francesco, gira la testa e va fuori dalle palle. Allora il problema qual è? È quello di coinvolgere queste persone. È abbastanza vero, tant'è che ho appena finito di dire, abbiamo fatto un referendum, tra l'altro noi siamo contenti che siano andati un sacco di gente a votarlo, però è anche vero che la società cosiddetta civile di sinistra questa cosa qua non l'ha vissuta, e questo è molto negativo, chiaro? Okay. Allora io direi che i partiti si troveranno e si stanno già trovando, perché poi immagino lo sappiamo, ci sono stati incontri dei giovani del PD con Paco, con il gruppo di Giù la Giunta, stasera c'è un incontro di Paco col PD, ci siamo incontrati con Sel, basta. Dopo concludi il ragionamento. E quindi? No, i partiti stanno incontrando e stanno lavorando solo per le primarie, secondo me, va bene, salvo quello che diceva lui riguardo al PD che deve posso averci la paglia dal culo, però tutto sommato ci siamo. Il problema non è quello, secondo me, cioè il problema è fuori, va bene, cioè non è accetto o non accetto le primarie, lo faccio col partito, se... quello è un falso problema, cioè il vero problema è fuori. Va bene, dunque chi altro si è iscritto? Ma no, hai già parlato. Ho detto una cosa piccolissima e mi ricordate. Marla, Maurizio, poi? Avevo detto. Ah no, giusto, allora c'è prima a noi, poi Marla, poi Maurizio. Prego, tocca a te. Niente, Annolina, Federazione della Sinistra. Niente, volevo dire che vabbè, per quanto riguarda il nostro punto di vista, è chiaro che una situazione come questa, vediamo positivamente il processo del primario come un processo di partecipazione, ecco, chiaramente. Provi! Noi, ecco, penso che... Prego. Penso che noi abbiamo dato il nostro contributo sia a livello delle varie amministrative, chiaramente dando un contributo partecipato di idee, di forze, benché siamo forze abbastanza limitate, però abbiamo speso tutto, tutti sono spesi con umiltà e partecipazione, dando anche le nostre risorse tipo anche di conoscenze, per cui anche a livello dell'acqua non è vero che no, i partiti non ci sono stati, perché noi abbiamo fatto su tutto il territorio banchetti, abbiamo raccolto le firme, addirittura a livello nazionale, a livello locale ci è stato riconosciuto anche una certa logistica a livello nazionale, la nostra sede che era riuscita, per cui insomma, mi sembra che il fatto di dire i partiti sì, i partiti no, dipende anche probabilmente dalle situazioni. Noi ci riteniamo in mezzo alla cittadinanza, siamo dentro nei comitati, cerchiamo sempre di essere con le associazioni, se le idee chiaramente sono idee che riteniamo non ci interessa che sia venuta da noi un'idea, se un'idea giusta va, ecco, per cui noi intendiamo costruire chiaramente un processo partecipato, perché crediamo veramente che le cose partano da lì, e poi è chiaro che quello che è sotto gli occhi di tutti, la città, una per tutte, l'altro giorno, no, per dire, prima devo concludere perché dico, continuano a dire che la gente fa la pipì in ogni angolo della strada, ma dove c'è un gabinetto pubblico, dove c'è una fontana pubblica, come? Cioè anche sono queste cose e i quartieri non ci saranno più le circoscrizioni, come affronteremo il fattore partecipativo nei quartieri? Ultima cosa, bisogna tener conto che ci sono anche le provinciali e ci sono anche altri due grossi comuni che vanno alle elezioni, Erba e Cantù. Per cui ecco, noi lo guardavamo anche da un lato un po' più alto. Ti ringrazio. Marta? Io sono Marta, volevo solo dire che se è difficile coinvolgere la società civile, no. A me la cosa più difficile di tutte mi sembra quella che diceva prima Imperiali, cioè che le realtà politiche facciano i due passi indietro e si mettano a disposizione del bene collettivo senza protagonismi. E già nel nostro piccolo, per i pochi contatti che abbiamo avuto, ci sembra che invece la direzione sia all'opposto, quella che ognuno continui a rivendicare la propria indipendenza e così il desiderio di non condividere, non tutti, alcune realtà, certo, non tutte, un paio di realtà non sono disposte a mettersi in gioco in questo senso, e a me sembra che sia lo scoglio più grosso da superare, oltre alla società civile che è naturalmente difficile da muovere. Finito? Prego. Tocca a te. A me. Sono Maurizio. Secondo me, diciamo, io parto dal dato del fatto che ci siamo trovati qui questa sera e io darei la notizia alla città che se un gruppo di cittadini propone alla città, a tutti gli altri, dar vita a un meccanismo che porti a individuare nuovi amministratori tramite le primarie. Perché già stasera comunque mi sembra che così oggettivamente, in modo spontaneo, e bisogna dare atto a Danilo che ha preso un'iniziativa fuori da ogni cappello, diciamo, libero da ogni cappello, e comunque sì, certo, tanti sono le persone che si sono date da fare per la politica da tanti anni, e cosa vuol dire? E tanti sono dei giovani che si daranno da fare, però ci siamo trovati questa sera assolutamente da soli, no? Perché abbiamo pensato che l'iniziativa di Danilo poteva essere interessante perché nasceva in modo naturale come? Qui infatti, tutti, ciascuno di noi, non lo ripeto, abbiamo fatto un'analisi prima per convincerci che le primarie sono buone, abbiamo fatto un'analisi anche di come sono andate queste ultime elezioni, questi referendum e anche le amministrazioni. Quindi io dico, non chiediamo a nessuno, Marrone, Rosso, nessuno deve darci il permesso di fare le primarie. Noi ci rivolgiamo ai cittadini e proponiamo a tutti i cittadini, quindi anche alle forze politiche democratiche che ci stanno, di scegliere questo metodo per arrivare a individuare le nuove amministrazioni. Anch'io quindi sono d'accordo, sì, facciamo un documento in cui diciamo questo, in cui invitiamo tutte le forze democratiche ad aderire a questo gruppo, sarà un gruppo promotore, non so come chiamarlo, si decide, un gruppo promotore aperto, da questa sera si è formato questo gruppo promotore, fatto da cittadini, e farà delle nuove riunioni, individuerà delle regole, naturalmente delle regole per costruire il percorso verso le primarie, e queste regole più sono individuate coralmente e meglio saranno migliori sostanzialmente, no? Quindi io dico, siamo già, secondo me, rispetto alla mia esperienza politica, questa sera forse siamo già 20 anni avanti rispetto, cioè siamo già a buon punto, mi sembra un buon avvio, ecco, ecco, ci sono alcune cose che secondo me, io non voglio entrare nel bisognerà parlare anche di programmi, ma non voglio parlare di programmi, voglio però dire una cosa: questa è una città nella quale le donne non hanno spazio, è una delle città più maschiliste che io conosca. Io vengo dall'Emilia, va bene, e conosco tante città dell'Emilia dove la cosa pubblica è amministrata in modo uguale, io dico, non più da donne, ma in modo uguale da maschi e femmine. Adesso uso questi termini. Questa è una delle città più maschiliste. Le donne non le trovate quasi da nessuna parte, fortunatamente poi sul piano professionale non è vero, perché per esempio in treno ho incontrato una mia vecchia alunna se è diventata primaria al Sant'Anna del reparto di oncologie, quindi mi ha spiegato come anche, come dire, le donne sono aumentate così di numero dentro alla sanità che hanno sopravanzato numericamente gli uomini. È chiaro che prima o poi arriveranno a diventare primari, ma lei è una delle prime. Mi ha detto, dice, guarda che però a livello del primariato, a livello nazionale, sono ancora i che abbinare il fondo. Ora, riflettiamo, io vorrei dire, riflettiamo anche su questo aspetto, su questo, non perché io lavoro per genio donna, ma perché la mancanza di un punto di vista femminile nell'amministrare questa città è stata quella che ha portato alla rovina questa città. È mancata quella capacità di una visione complessiva delle cose. Che soltanto, io dico, che soltanto è tipicamente femminile, che sono abituate a, come dire, a considerare il bene complessivo della famiglia, del gruppo di più che loro ha affidato, e non soltanto del gruppo di interesse che di solito è leggero. Quindi anche questo sarà un problema, riequilibrare dal punto di vista dei generi che debbono partecipare possibilmente a... un altro dei punti, io come vedete non metto nelle partite questo, ma metto un punto che secondo me è decisivo. Grazie. Mi dico, ma tuo figlio mi stava sgridando sui tempi. Più nessuno? Là in fondo vedo dei giovani che non parlano. Parlano senza un professore. Com'è? Prego, presentati. Sono Patrizia Signorotto. Io, vabbè, non voglio ripetere cose già dette. Quello che volevo solo mettere un attimino un po' a punto è su una questione molto pragmatica, cioè tornate piedi per terra. Le elezioni sono un appuntamento che richiede una visione pragmatica, perché o si arriva al 50%, si ha la possibilità poi di fare qualcosa, o se non si arriva al 50%, come abbiamo visto, si riesce a fare molto poco, non per la responsabilità o corresponsabilità dei consiglieri di opposizione, così non si riesce a fare quasi niente. Quindi è importante avere l'obiettivo quando si affronta una campagna elettorale. E io sono andata a rivedere i dati elettorali del 2007 e del 2002, e poi uno studio di flussi fatto da un istituto che si occupa di queste cose. Quello che si nota è una certa stabilità nei due gruppi di voti in questa città. Il dato che risalta di più è l'aumento dell'astensionismo. Quindi, se si vuole lavorare per recuperare qualche cosa, sarà difficile lo spostamento fra gruppo destra, diciamo così, e gruppo sinistra, perché resta abbastanza stabile, almeno nelle ultime elezioni comunali a Como. Potrebbe esserci un po' un calo della destra adesso con i disastri che sono stati fatti, speriamo, però bisogna lavorare anche tanto sull'astensionismo, cioè sulla gente che non va a votare. E soprattutto in questo studio dell'Istituto Cattaneo c'è scritto che chi paga di più per l'astensionismo è proprio il centro-sinistra. Quindi le primarie, secondo me, hanno il valore aggiunto di devono avere il valore aggiunto di coinvolgere anche più persone, cioè questo è uno dei valori aggiunti importanti, cioè coinvolgere più persone al di fuori. Come qualcuno ha detto, non dobbiamo continuare a parlarci addosso. Se siamo sempre noi, non raggiungiamo l'obiettivo. Noi dobbiamo riuscire a parlare al di fuori di quelli che sono la visione che abbiamo, che deve essere riassunta in pochissimi punti, secondo me non più di tre. Quelli che vedo io è consumo e gestione del territorio, mobilità sostenibile e riequilibrio delle risorse economiche, perché mi sembra inutile in un momento del genere a Como poter pensare di fare il programma che promette grandi cose quando si sa tutti in che condizioni ci troviamo. E per quanto riguarda i candidati, una scelta oculata dei candidati, perché questa personalizzazione delle elezioni comunali a me personalmente non piace, non mi è mai piaciuta e non sono d'accordo, però questa è e in questa si deve stare. Quindi è molto importante che le persone che vengono candidate siano scelte col criterio che siano proponibili per le persone che devono votare. Quindi magari ci sono le persone che sono molto preparate, intelligenti, ma non riescono a comunicare. Uno magari che invece comunica ma non c'ha niente, cioè bisogna trovare le persone giuste. È molto importante trovare i candidati giusti. Quindi secondo me questi tre punti, una visione chiara del progetto in pochi punti, realistici, concreti, presentare dei volti che abbiano criteri di affidabilità, di serietà, di indipendenza, quindi adatti a governare una città, e poi il recupero dell'astensionismo attraverso l'allargamento della partecipazione sono le cose che possono dare un senso al discorso delle primarie, altrimenti facciamo esperienze già fatte che non hanno funzionato. E per chiudere, io porrei con forza il problema organizzativo, perché adesso noi abbiamo parlato, io sono contenta di questa serata, però magari andiamo a casa e poi non vorrei che ci fosse un'altra riunione in cui ancora parliamo così. Cioè, le elezioni sono fra 9 mesi, d'estate non si fa moltissimo, quindi i 3 mesi estivi non li conterei come 3 mesi. Cioè, bisogna lavorare velocemente, altrimenti questo progetto, per quanto bello, potrebbe arrivare fuori tempo utile, perché se le persone devono anche presentarsi all'esterno, devono avere il tempo di farlo, e questo richiede forse un po' di più di quello che già abbiamo. Quindi porrei concretamente il problema organizzativo di chi fa che cosa, come e quando, cioè regole, persone e quello che serve per la parte, diciamo, organizzativa. La campagna elettorale secondo me non si fa solo con la buona volontà, ma ci vuole anche competenza e metodo. Grazie. Grazie Patrizia. Vengono presenti del PD, anche se per le modalità con cui è stata convocata la riunione mi piacerebbe definire un utente di Facebook che ha saputo di questa riunione. Credo che la cosa in una certa prospettiva non sia semplicemente una battuta. Non voglio ripetere nessuno dei bellissimi spunti che sono stati dati stasera, però voglio abbracciare le opinioni espresse da Giampaolo e da Fermattino in particolare, perché secondo me mettono alla luce due grossi problemi che in una situazione come questa forse lasciamo un pochino da parte, perché quando si parte con un progetto c'è sempre tanto entusiasmo. Io credo però che se vogliamo veramente cambiare qualcosa a Como, nella peculiarità della città di Como e del suo sentire civico, dobbiamo anche porci la questione della peggiore situazione possibile. Cioè, se dopo tutto un bellissimo percorso, alla fine di una bellissima campagna elettorale, ci ritroviamo ancora e comunque all'opposizione. Io personalmente, che ho avuto la possibilità negli ultimi 2 mandati, purtroppo a differenza di tanti presenti, la mia vita politica a Como si basa tutta in confronto a Bruni, quindi sono portato a pensare che peggio di così di sicuro non potrò vedere niente, però ho seguito molto da vicino i lavori in consiglio comunale anche con una certa assiduità e frequenza. Io sono assolutamente scontento di come il centro-sinistra in ogni sua definizione più ampia abbia fatto opposizione, come i partiti abbiano ragionato in maniera completamente diversa e tante volte contrapposta per motivi personalistici, come le associazioni, il cosiddetto terzo settore, società civile, è stato comunque molto staccato, oppure c'è stata corrente alternata solo su alcune questioni e su altre. Sono scontento di come siamo riusciti a portare in piazza o nei palazzi del comune le persone solamente cavalcando alcuni momenti o drammatici, vedi Rumes, oppure palesemente incredibili come il muro piuttosto che qualche volta sulla Ticosa. Sono assolutamente scontento di come una città non si scandalizzi del fatto che non esistono verbali dei lavori del Consiglio Comunale, ad esempio, o di come sia una cosa assolutamente straordinaria adesso avere la diretta webcam del Consiglio Comunale. Sono assolutamente scontento di come una città non si scandalizzi del fatto che in 2 mandati io ancora non ho sentito la voce di tutti i consiglieri comunali del centrodestra, ad esempio, e secondo me su cose del genere bisogna ritrovare un po' l'entusiasmo, far ritrovare l'entusiasmo e forse anche l'indignazione, che è un termine che adesso sta tornando di moda, delle persone nei confronti dei propri amministratori. Quindi io credo che qua stasera ci prendiamo anche un impegno di fare tutti un bagno di umiltà e di lavorare anche nella prospettiva peggiore, che se ci dovessero essere 5 anni di opposizione, saranno 5 anni di opposizione, posso dirlo coi controcoglioni, meglio di come sono, non posso dirlo allora, di opposizione forte, strutturata, organizzata, umile, costante, continua, incentrata soprattutto sull'informazione, che è assolutamente mancata. Io lo dicevo già a Giampaolo in un'altra occasione, Giampaolo rappresenta l'unico organo che effettivamente riporta sempre i documenti e i verbali dei lavori del, no, i verbali no, ma i resoconti dei lavori del Consiglio Comunale. Quindi a me piace che anche se il percorso non dovesse andare bene, oggi qui ci prendiamo un impegno anche per lavorare, per cambiare effettivamente il nostro, anche il nostro modo di essere protagonisti attivi della politica comunale. Grazie Stefano. Altri interventi? Sono le 23:16, non siamo ancora stanchi. Ovviamente ci lasceremo per prendere al volo quello che diceva Patrizio, ovviamente ci daremo una scadenza organizzativa che condivideremo, diciamo. Però finiamo, abbiamo finito questo giro lungo di opinioni. Danilo, abbiamo anche un'indicazione di contatto. Aspetta, un attimo. Scusate, per concludere, prima che viene lui poi vuole fare una proposta. Sì, prego. Niente, sono Panetti del Partito Democratico. Non ho capito, scusami. Sono Panetti del Partito Democratico. Concordo con molte cose che hanno detto i miei amici, non solo del PD, e in particolare col discorso di Stefano, con l'ultimo discorso, no, con il discorso di Stefano Binda e con il discorso di Stefano Tosetti, visto che anche io mi chiamo Stefano, probabilmente PD ci chiediamo così. Ma a prescindere da questo, quello che chiedo a tutte le forze che sono presenti in sala, forze politiche, civiche, di fare uno sforzo di unità, perché io sono stufo che il PD o altri partiti siano sempre oggetto di contestazione, di insulti, anche da parte di persone presenti in questa sala. Ecco, io vi chiedo, se vogliamo fare una campagna elettorale vincente, va bene rimarcare sulle università, però siamo uniti, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte, perché se il PD, che è il principale partito dell'opposizione, è continuamente schifato anche da persone che fanno parte della coalizione del centro-sinistra, non si andrà da nessuna parte, dobbiamo fare squadra. Sui referendum è stato detto che il Partito Democratico non si è impegnato, è vero, ha scontato un'indecisione iniziale, però dopo i banchetti li ha fatti, l'impegno ce l'ha messo. Io non dico che ha fatto il meglio possibile, però guardiamo in faccia la realtà, molte volte il nostro partito dà sempre una mano a organizzare tutte le manifestazioni, siano delle donne, siano a favore del lavoro, siano a favore del referendum, siano a favore di qualsiasi altro tema oggetto di riflessione all'interno di questa città. Quindi riconosciamo anche i meriti di un partito che, seppur travagliato, pur con molte criticità, qualcosa fa. Allora io dicevo 5 minuti ancora. Posso dire, io mi prendo 2 minuti per fare anche il mio piccolo intervento. Dunque, io volevo a questo proposito dire due cose. Ringrazio Danilo perché ha avuto una bellissima idea. Anch'io sono per fare delle primarie vere, e quindi le primarie vere vuol dire che ci si mette in gioco con candidati che non sono di paglia, ed è una forza, l'hanno dimostrato le ultime amministrative. Avere delle primarie vere consente a tutti di rafforzarsi sostanzialmente. Partiti, movimenti, società civile. Due, io insisterei su un metodo che dovrebbe porre in luce tre fattori fondamentali. Primo, che sia le forze politiche che gli eventuali candidati dovrebbero comunque, per voltare pagina, ispirarsi a un minimo di coerenza. Cioè, quello che Pisapia ha detto a Milano, secondo me, è una gran verità. Le persone oggi si guardano in faccia quando sono coerenti, cioè quando hanno una storia coerente. E chi ha capito, secondo me, a livello personale, a livello di forze politiche, che è cambiato il vento, perché il vento è oggettivamente cambiato, secondo me il partito vero che si mette al servizio è quello che, come dire, alimenta la nascita del nuovo, non impedisce che questo nuovo nasca. Anche perché presumo che i partiti veri, se sono partiti veri, al loro interno hanno le forze, le intelligenze, le capacità nuove e coerenti per proporsi alla città. E quindi sarebbe un gravissimo errore, secondo me, immaginarsi delle primarie con dei candidati di paglia e, come dire, con storie che vengono dal passato. si vogliono delle storie limpide, coerenti, trasparenti. Ora, trasparenza, anche le primarie, direi, devono essere ispirate alla coerenza, alla trasparenza. Quindi inviterei tutti coloro i quali militano nei partiti o hanno delle responsabilità nei partiti di non pensare alle primarie nel segreto delle stanze, delle segreterie, perché in questo modo non funziona. Deve essere un percorso assolutamente trasparente, dove chi è più forte vince. E quindi se un partito è forte, ha intelligenza, organizzazione, ne esce sicuramente rafforzato. Se è un partito di carta, no. Terzo, lealtà. Io veramente insisto su un punto, che quando ci si parla, ad esempio questa sera ci siamo parlati a cuore aperto, ho sentito parole precise, me le sono segnate e appuntate. La lealtà, cioè in politica ci vuole lealtà. La lealtà è diversa dalla fedeltà, la fedeltà ce l'hanno i vassalli. La lealtà è distinguersi nelle opinioni, però, come dire, appunto, essere trasparenti, scontrarsi e mantenere la parola data. Cosa che io vedo invece, da quel poco che ho conosciuto a Como, la stagione passata, i 20 anni precedenti, questa della lealtà manca. Insomma, le primarie sono un momento di grande partecipazione, di grande verità, e quindi bisogna essere, come dire, coerenti, leali e trasparenti. Finisco con un punto su Como, in particolare. Dunque, qual è la litania che si dice su Como? Como è una città moderata. Ecco, per piacere, basta con questa litania. Il moderatismo a Como ha dimostrato di essere il nulla amministrativo, d'accordo? Non sono moderati coloro i quali, sarò un po' duro, hanno votato per tanto tempo Berlusconi. Io non li considero moderati, io li considero degli estremisti. E infatti la loro prova amministrativa che hanno dato a Como è quella di uno estremista. Potrei fare addirittura dei nomi e cognomi di ex estremisti. Cioè estremisti del potere personale e dell'incapacità amministrativa per il bene pubblico. Quindi basta, cioè se Milano ha avuto il coraggio di mettersi in gioco con Pisapia, accidenti, si può provare anche Como. Quindi questa idea che abbiamo sentito per tanti anni, in cui le candidature, la politica devono già essere precostituite, secondo un'ideologia precostituita che ormai nei fatti non esiste più, dobbiamo abbandonarlo. Dopodiché, se sarà un moderato contro Fiocchi a vincere le primarie, Milano ci insegna che tutti remano a favore di questa persona moderata che ha vinto le primarie, non c'è dubbio. Però ho finito, prego. Allora, per concludere, no, solo due parole. Allora, uno, noi eravamo partiti da due documenti, il documento che si chiedeva e il documento che avevo stilato io. Ringrazio sempre il nostro Giampaolo, che secondo me è sempre preciso e puntuale. Sono d'accordo anch'io con lui. Mi piacerebbe spiegare perché avevo pensato di chiedere, no? Ma non voglio, perché dopo potrebbe, perché non mi esprimo bene, potrebbe venire fuori qualche fraintendimento, no? Ma era un qualcosa che però portava a questa riunione. Per cui a me va benissimo, no? Non chiedere niente a nessuno, sottoscrivere il documento che potrebbe andare bene, e io chiedo a tutti, no? Se intanto che l'avete già ricevuto, no? Perché quello che è un documento che di fatto chiede le primarie in genere, no? Ma non solo, no? Secondo, aspetto organizzativo immediato, no? Che diceva lei, no? Anche, no? Rispondo alla Patrizia, che ne abbiamo già parlato anche nelle altri nostri incontri di preparazione. In questo momento, questo, l'unico aspetto che mi sentirei di proporre adesso è una sorta di rete nostra, no? Di tutti quelli che sono presenti, ci conosciamo quasi tutti. Io l'avevo segnato perché in un altro documento avevo parlato di cittadinanza partecipativa, no? Una cosa del genere, ma tanto per darci un modo poi per colloquiare, no? Metterci in rete tutti noi e far passare delle idee. Potrebbe anche essere tramite ecoinformazioni, per esempio, né? Dico. C'è il pro, c'è la pagina Facebook. Esatto, esatto. No, infatti, no, stavo prima parlando, stavo dicendo, anche perché vorrei appunto non sprecare, io parto da quello che ha detto lui e dobbiamo farlo diventare nostro patrimonio, ma che diventi sul serio nostro patrimonio. E ugualmente con l'intervento dell'ultimo giovane che ha espresso in modo anche lui molto, molto semplice, ma questo sforzo di unità. Io sono d'accordo, no? Che oggi dobbiamo percorrere questa strada e dobbiamo percorrerla anche superando i nostri problemi, che poi dopo dai 45 anni in su si moltiplicano al 100%, perché dico così. E dico a tutte le persone che sono presenti, proprio per tentare veramente di vincere, per diventare momento dirigente a Como, no? Fare uno sforzo, ognuno per la parte propria, di superare, no, queste cose qui, e di mettere assieme invece tutte le condivisioni che abbiamo, perché io l'ho detto sempre, tante volte noi anche nelle passate ci troviamo qui come adesso, e poi domani mattina, se io guardo qui, saranno almeno 15 organizzazioni o 20 che poi lavora per conto proprio. Se queste 15 o 20 organizzazioni, assieme a tutto quello che è stato detto prima, si mettono veramente in rete e lavorano assieme, io sono convinto anch'io che potremo a Como raggiungere degli obiettivi che sono inimmaginabili, no? Inimmaginabili. E quindi documento e questa rete tramite anche Facebook, che va benissimo, no? Perché io, oltretutto, la forma comunicativa, io ero partito con il discorso della mia mail e della mia mail list, che poi criticata da Giampaolo perché era chiusa, ma perché chiuso era perché è arrivato che alcuni mi hanno criticato che non l'avevano aperta, vabbè, così. Poi dopo ho dato incarico, tra virgolette, a dei giovani, no, per metterlo su Facebook, e infatti si è visto che alcuni giustamente... Si chiama la pagina di Facebook? Guarda, l'ha fatta Salvatore e la Francesca, e quindi non è... Primaria a Como. Cominciamo a mantenere questo nome. Sì, adesso le parlo con Giampaolo, dopo lo facciamo comunicare per un argomento unico. Danilo, secondo me Primaria a Como deve essere il mezzo di comunicazione, perché Primaria la devono conoscere tutti, anche chi è all'esterno. Quindi diciamo che la pagina, silenzio per cortesia, chi ha delle proposte concrete? Marcello di attorno, chi ha delle proposte concrete, sarebbe il caso che facesse alzando la mano. Mi sembra di capire, prima proposta concreta, la pagina di Facebook Primaria Como diventa il nostro strumento di comunicazione. Per comunicare, tutti avete Facebook qua presenti? Non tu. Se non ha Facebook, non ci credo, perché vedo la città, sì, dobbiamo usare due cose. La rete via mail e via Facebook va usata, c'è anche quelle che non hanno mail, io le dovrei avere tutte, però se qualcuno come la tua, non so se ce l'ho, esatto. Ragazzi, ci vuole ordine, però io le dovrei avere tutte adesso, poi domani io mi raccomando, che interpellerò qualcuno, per esempio alcuni giovani che sono con Mauro, io non li conosco, faccio riferimento a lui, no? Ne vediamo, ne facciamo una e la facciamo girare questa volta in, se siete d'accordo, con tutti in bianco. No, la mail list si fa, perché molti non hanno Facebook, e poi Facebook Primaria Como. Come? Adesso attenzione, perché questi momenti qui diventano lunghi. Il documento cosa fa? Allora, il documento, aspetti, Lina, aspetti, non se ne va. Un secondo solo, due minuti. Allora, sul documento. Prego. Il documento, siamo d'accordo tutti a sottoscriverlo, che sarebbe la lettera, non era quello che... No, io direi che il documento deve nascere, io farei un secondo documento, se siete d'accordo. Cioè, ti sei preso l'impegno di mandarci... Io faccio un verbale, ve lo mando, però direi che Danilo... Adesso leggiamo questo documento. Sei assunto questa responsabilità, il documento nuovo, frutto anche di questa giornata. No? Va bene. Ma possiamo leggerlo adesso il documento? Già me l'ho detto. Ma questo era quello, non è il documento che avevo fatto io, era la lettera. La lettera è questa, di Maria Como. Aspetta un attimo. No, magari di fatto esiste già, lo so che è una cosa dei vecchi partiti, magari ci sono tre persone che siano quelle che tirano fuori. Va bene, va benissimo a me. Chi si propone per aiutare Danilo a scrivere questo documento? Sì, va bene. Non c'è nessun problema. Ma scusa un attimo, mi pare che l'obiezione più importante che è stata fatta fino adesso al documento che inizialmente ha fatto Danilo è che noi non chiediamo le primarie ad alcuno, ma proponiamo le primarie alla città e alle forze. Questa è l'obiezione e la modifica principale da introdurre. No? Mi pare che sia questo il discorso. Chiede di aderire. Si chiede di aderire. E si chiede la norma. Non si chiede a qualcuno di dirle, ma si chiede di aderire. Esatto. Per questo dico che dobbiamo avere un nome e un cognome. Quindi va bene il gruppo primario. Primaria come? Cioè il soggetto che fa la proposta. Va bene, il soggetto poi comunque io presumo rimanga sempre Danilo. Danilo, Facebook, teniamo Danilo. Facebook c'è sempre il nome e il cognome, quindi è comunque Danilo. No, Danilo è una forma fisica. Non possiamo portarci avanti. Come? No, dico, non possiamo portarci avanti, perché una volta fatte le primarie, non lo e allora fare già una quindi vi va bene? Allora riassumo un attimo, scusate un attimo di attenzione per avere per riuscire a coagulare Pezzoni attorno giovani, Robby, grazie ora vi conosco più un attimo di attenzione. Allora mi sembra che il percorso sia questo, un documento corretto nel senso che si propongono alla città le primarie e si chiede nominalmente l'adesione a questo documento. D'accordo? Questo è il percorso che abbiamo stabilito. Di... Si può aderire anche se non sei in comune? Certo, è provinciale il discorso. È provinciale. Dopodiché io direi di incaricare comunque Danilo a pensare a un secondo momento in cui si quaglia in maniera più... Io ho una proposta da fare allora. Che proporrei che questa come ti chiami? Patrizia. Ecco, che Patrizia, che mi pare che ha dato una sterzata organizzativa che occorreva, no, affianchi anche Danilo e poi qualche un altro che appunto chi affianca Danilo? Patrizia sicuramente. Io lo affianco. Loro ci sono già. Uno? Dai, questi ragazzi. Sassi, benissimo. Beh, già i giovani. Giovani, Sassi. Danilo, non play. Allora, mi mettete in contatto con Danilo, mi raccomando, Come ti chiami? Mauro. Panetti, hai detto? Danilo, poi chi altro? Poi chiunque, da me l'avete avuta, molti, la stragrande maggioranza li conosco. Solo per dire che c'è un secondo aspetto, quello sollevato da Iancolo, che secondo me nel documento dovrebbe trovare, cioè la questione dei tempi. Perché dato che noi partiamo in una situazione in cui le primarie sono molto probabili, se comunque, anche indipendentemente dalla nostra azione, indicare se non dopo una data così precisa che mi sembra anche un po' presuntuoso, no? Per un gruppo di persone, almeno indicare che ci sia un tempo, perché se no. Ecco, io su questo punto invece dico stiamo un attimo prudenti, no, nel senso che cos'è importante è dire alla città domani che si è formato il gruppo promotore di questo, e questa è già la prima data che viene fuori, ma questo gruppo promotore, come dire, si prenderà un congruo tempo di che sarà a settembre, cioè lì si può dire in un comunicato che può fare benissimo il nostro Rosso che fa girare, in un comunicato che si è formato il gruppo promotore, che è un gruppo promotore aperto, che ricerca le adesioni, che propone le primarie come valore metodologico a tutti i cittadini e a tutte le forze politiche, e quindi per arrivare entro breve a costruirle, alla definizione di una data, ecco, però senza, io diciamo, stasera impegnarsi già con una data di no, mi sembra una data no, che no, ho capito, sono anche da gennaio no, ma sia pure una data che non può essere che a breve sì, va bene, concludiamo la serata, d'accordo, grazie a tutti.